gentili collega all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Siete due clown pagati da Confindustria. Mi fate schifo. Mi fate schifo. Attenzione, attenzione, appello a tutti i membri di Casa Pound. Quando Parenzo parla di solidarietà con i musulmani e gli zingari e poi non accoglie Zabaeta, non tirategli una testata. Quando Parenzo vi guarda con aria di disprezzo e superiorità, non tirategli una testata. Quando fate qualsiasi tipo di domanda a Parenzo e lui incomincia a parlarvi di Einaudi, non tirategli una testata. Insomma, qualsiasi cosa succeda, non tirate una poderosa testata su quel suo naso da ebreo. Grazie. Dopo l'episodio di Ostia, Parenzo decide di annullare l'incontro con Casa Pound di stasera. Mamma mia, che pavido ragazzi, che pavido! And when the masquerade is played and neighbor folks make jokes as who is most to blame today. Siamo qui, David! Siamo qui! Hai annullato tutto! Hai annullato tutto l'incontro! Hai annullato, adesso spiegheremo tutto. Però la palma del coglione del giorno, la palma a chi la diamo? La diamo a un prete. Amico mio. A un prete di Bologna, il quale c'è stato un caso di stupro recente su una ragazza addirittura minorenne. Cosa ha scritto questo prete? Don Lorenzo Guidotti. Tesoro, mi dispiace, ma frequenti Piazza Verdi che è diventato il buco del Q di Bologna. Così ha scritto il prete, sì, così esatto. E a tal proposito, Merola sia sempre lodato. Ti ubriachi da far schifo, ma perché? E dopo la cavolata di ubriacarti con chi ti allontani? Con un magrebino? Notoriamente, soprattutto in Piazza Verdi, veri gentlemen. Tutti liberi professionisti, insegnanti, gente di cultura, per bene. Adesso capisci che oltre agli alcolici ti eri già bevuta tutta la tirata ideologica sull'accogliamoli tutti? Insomma, questo prete cosa dice? Ti sballi e dovrei provare pietà? Così scrive, dovrei provare pietà? No, non provo pietà. Tesoro, mi dispiace, ma se ti ubriachi e vai con un magrebino ti può succedere questo. Un prete che è un imbecille, un coglione. Però tu stai godendo, adesso spiegheremo perché non sei andato a Casa Pound. Vedete, nel caso del prete intervenga immediatamente la curia e a seguire un bravo medico, sai, quelle belle ambulanze, quelle belle macchine. Esprime un'opinione, con si può sopra dire, la meravigliosa lucetta, credo sia rossa, sopra le macchine, quelle macchine bianche con delle belle strisce, scritto ambulanza. Intervenga quindi nell'ordine, prima la curia per togliergli, sospenderlo a divinis. Sospenderlo addirittura. Ma ragazzi, ma se non c'è mai la sanzione, tu dici che uno dice non provo pietà per una che sta Un prete che usa anche quel tipo di linguaggio lì, ma che è un prete della zanzara, quello lì, che roba è, che linguaggio è? È un prete molto zanzaresco, minoranza rumorosa, è un classico. Però tu stai godendo per un'altra cosa, caro Davide. Sì, stai godendo per le gazzelle dei carabinieri. Oh, quando oggi sì, mi stavo chiedendo come mai non fosse avvenuto prima quel meraviglioso fermo, così si chiama tecnicamente, di polizia giudiziaria avvenuto oggi pomeriggio, quando queste due gazzelle dei carabinieri sono andati a casa del signor Spada, hanno bussato, hanno detto: chi è? Siamo i carabinieri. Toc toc, ci può seguire per cortesia? Beh, vedere finalmente lo Stato. Bello l'intervento dello Stato che si è portato via questo signore. Quasi un'eiaculazione ha avuto. Praticamente un'eiaculazione, praticamente un orgasmo. Io non parlo di queste cose. No, praticamente in pubblico, dillo, però hai avuto un orgasmo. Beh, mi è piaciuto l'intervento dello Stato. No, proprio una cosa da godere. Me sono riguardato tutto il pomeriggio. Ho preso del pomeriggio. Ah, no, non ci tenete veramente a vedere l'intervento dello Stato, dopo l'arrivo. Ma non è stato molto rumoroso in genere quando arrivano, cioè, eri anche dispiaciuto che non ci fossero le sirene, insomma. Poteva essere, ci deve lo Stato, la presenza dello Stato, carabinieri, istituzioni, divise, lo Stato si è fatto sentire, quindi benissimo, hanno suonato, sì. Vogliamo ricapitolare i motivi per cui si è fatto sentire lo Stato, vogliamo risentire quegli audio sentire. In realtà sono delle immagini che verranno trasmesse questa sera, credo integralmente nella trasmissione Nemo su Rai 2 in prima serata, e risentiamo tutto, dai. La tua speranza però è che con Casa Pound cambi qualcosa. Non me ne fotte in cazzo, non me ne fotte niente. Oh, ma rotto il cazzo, oh. Ma rotto il naso. Rotto il naso, sono due ore che sta qua, oh. Oh, ferma, ma rotto, fe. Vai, cazzo. Sweet as the punch. Fermo, oh, gli hai rotto il naso! Ma hai rotto il naso! Dai, lascialo, ma hai rotto il naso, dai, no, basta! A brutto un fatto! Ma me ne vado se me lo dici, no! Ma basta me lo dici con calma, me ne vado! Guarda che mai fatto, cazzo! Ma hai rotto il naso! Allora, dunque, fermato il signor Roberto Spada. Fermato il signor Roberto la lucidità Spada. Con la quale questo signor Spada, questo signor Roberto Spada, ha colpito il giornalista. Cioè, è agghiacciante la lucidità con la quale è intervenuto, con questa freddezza con la quale lo ha colpito e poi lo ha pure inseguito con un bastone. Allora, con oggi un Casa Pound ha parlato. Il signor Di Stefano ha detto: sì, la palestra, che è uno dei leader, anzi, forse il leader principale di Casa Pound, ha detto: la palestra di Spada è l'unico presidio sociale del quartiere. Cioè, ha difeso. Questa palestra, che non si sa nemmeno se è una palestra in realtà regolare o no, che dove lavora questo Spada, quello che ha dato la testata. L'attività della palestra, al netto da chi è gestita, è l'unico presidio sociale su quel territorio. Quindi questo è il valore della palestra ed è l'unico, credetemi, l'unica cosa aperta in tutta Nuova Ostia. Voi andateci oggi e troverete lì dentro tutti i bambini di Nuova Ostia che fanno le loro attività. Poi dice: il voto di Spada vale quanto il vostro, il che oggettivamente è vero, cioè uno vale uno, cioè il voto, sì, questo qua sì, è... Questo cosa vuol dire però? Sentiamo. I voti sono voti di tutti quanti, e il voto di Roberto Spada, credetemi, vale quanto il vostro. Non lo dice il sottoscritto per farvi paura, lo dice la Costituzione. Allora, Marcella, che cosa dice? Marcella è quello che si è candidato a Ostia come, diciamo, sindaco di Ostia, no? Sempre di Casa Pound. Sì, alla presidenza del municipio. Sì, ha detto, ho organizzato un evento insieme a questa palestra guidata da questo Spada e ho invitato delle associazioni, compreso la sua. Cioè, non nega il legame che c'è con questo Spada, però, amico mio, quando si presenta a una manifestazione insieme a delle persone, deve anche conoscerle quelle persone. Sicuramente, lui fa il politico. Questo Spada... Si candida a governare il suo territorio, questo come Spada, minimo. A parte che ha dei precedenti anche lui, e va bene, d'accordo. Cioè, ma no, è di una famiglia. È di una famiglia in cui c'è gente in galera, gente condannata, gente sotto processo per traffici pazzeschi. Cioè, avete preso o no questi voti? Cioè, perché c'è questa amicizia, questo legame? Cioè, questo deve essere spiegato. Certo. Non mi sembrano spiegazioni sufficienti quelle che sono arrivate. Ho conosciuto Spada per la palestra, per la festa che abbiamo organizzato, perché ho coinvolto io le associazioni del posto. Allora, le voci ad Ostia, è abbastanza incredibile quello che è successo oggi, perché qualcuno è andato nel bar di proprietà o comunque gestito da questi Spada e sentite cosa è uscito fuori. Rompete il cazzo voi giornalisti, se ero io gli facevo pure il bucio del culo. Bello, bel clima. Voci da Ostia, vai. È normale che uno tiri un altro fatto. No, è normale che in Italia sia. No, è normale che voi state sempre a romper cazzo di gente invece a fare 3.000 domande tutto il giorno, tutto il giorno. Quello è normale invece, vero? Perché il lavoro vostro è normale. Perché il lavoro vostro. Scusami. Se c'era io le faccio un bucio di culo così proprio. Ma scusa me. Dopo che andiamo a chiare, dobbiamo pure a chiacchiere, via. Però scusa me. Vai cazzare che dite. Altre voci, alcuni dicono Roberto è un ragazzo tranquillo. È un ragazzo tranquillo. Roberto è un angelo. Sono le cose che dicono spesso i familiari quando hanno i figli delinquenti. Ma non sembrerebbe però un angelo a casa sua. Non mi sembra un angelo. Sì, dice, probabilmente ha detto buongiorno e buonasera a qualcuno, lo avrà detto sicuramente. Ha aiutato qualche vecchietta. Cosa tipica dei delinquenti, peraltro, aiutare le vecchiette, lo sai? Voglio dire, no, perché questo qua, quando uno dice io aiuto il quartiere, porto la pasta, questo non vuol dire un cazzo. Perché non è che se tu porti la pasta a qualcuno non puoi dare la testata a un altro. Cioè, porti la pasta al poveretto e dai la testata al giornalista, sì. Oppure dai la testata al tuo nemico. Ma poi lo insegni con un bastone. No, anche ma c'è questa cosa che dicono: però sai, questi qua fanno del bene al quartiere, sì, perché aiutano le vecchiette, però aiutano la gente, portano i pacchi di pasta. Sto parlando di Casa Pound, sto parlando di questo qua. No, sì, d'accordo, ma questo non vuol dire nulla. No, cioè, è tipico dei criminali, è tipico delle persone criminali crearsi intorno del consenso in un posto attraverso questi metodi, che sono quelli di regalare delle cose, di aiutare per ottenere consenso. Per cui quando poi fanno dei traffici e dici sì, però quello mi ha aiutato, è buono, è così gentile, che così cazzo così vuol dire che è gentile, dai, insomma. Sentiamo. È tranquillo come ragazzo. Le ha viste le immagini? Sì. Ha dato una testata al giornalista. Mi è dispiaciuto, certo, però anche li ha presi a manganellate, li ha inseguiti. Ho capito, bisogna sempre vedere quanto sei arrivato al capolinea proprio, I miei figli vanno in palestra là e sono contenta. Perché tu lo conosci cresciuto. Bene Roberto sì, Spada? Sì, l'ho cresciuta con lui. È una bravissima persona. È un angelo, eh. Vanno a buttarci solo fango. E questo ci sono riusciti perché siamo abbandonati. Stufe e caminetti. La Nordica Extra Flame. Il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Le gazzelle, coglione, hanno le luci viola, imbecille! E se te lo spaccavo a te il naso, gli portavo un premio a Spada, imbecille! Quando un giornalista rompe troppo i coglioni, non puoi stare dove vuoi a rompere i coglioni a uno. Non sempre trovi gente paziente. Io avrei fatto forse peggio. L'avrei preso bastonate quel giornalista lì. Se ti dico di andare fuori i coglioni, vai fuori i coglioni. Sei a casa mia e tu vai fuori dalle balle anche se sei giornalista e vaffanculo, vieni a violare il mio domicilio. Imbecille. Te poi anche quel coglione di Cruciale. Siete due imbecilli. Cioè, Maurone da Mantova a favore di Spada. No, il fatto è che nella corsia dell'ospedale dove lui attualmente è ricoverato, per questo io l'abbraccio veramente fortissimo, poi vado a lavare ovviamente. E in quella corsia lì hanno permesso adesso le telefonate tra le 18.30 e le 19, cioè è la mezz'ora in cui lui è libero ed è lasciato libero di circolare per l'ospedale. Ed evidentemente ha usato questa mezz'ora per mandare WhatsApp. È una persona molto sola, poverino. Molto. Allora, c'è un avvocato pugliese di Ostuni che ha scritto: senti una cosa, un avvocato sconosciuto, ma pur sempre un avvocato, ha scritto: c'era una volta il giornalismo serio e quando un boss veniva intervistato rispettava il suo interlocutore. Il giornalismo odierno invece vive di gossip, immagini, provocazioni, chiambretti, le iene, robaccia del genere. Si volevano sostituire, si vogliono sostituire la magistratura svolgendo il ruolo di novelli Savonarola. Spada, se delinquente, deve essere perseguito dalla magistratura in uno stato di diritto, meno che mai da un giornalista Rai. Ma vi è di più: se vai a intervistare un armadio che insegna box, anche se carmelitano scalzo, non puoi fare il fenomeno e provocarlo all'infinito. Spada ripetutamente aveva invitato il giornalista ad andare via ed è stato provocato. Lungi dal voler giustificare la violenza, ma in questo caso il giornalista ha cercato la testata per avere il suo momento di gloria. Un altro deficiente totale. Allora ragazzi, è chiaro che se uno va in certe zone si può aspettare delle reazioni magari negative, su questo non c'è dubbio, si può aspettare ostilità, si può aspettare quello che volete, non c'è dubbio, ma pensare che quello, io non lo conosco, abbia cercato la gloria, non sembrava che, abbia cercato di farsi dare la testata, c'era un'insistenza nel fare le domande, ma il mestiere insistenza, suo, ma poi questi qua, ma poi scusate, questo Spada si faceva intervistare tranquillamente fino a qualche giorno fa da tutti, non mi pareva uno ostile ai giornalisti, andavano là, gli chiedevano, lei vota per Casa Pound? Sì, voto per Casa Pound, perché sono vicini alla gente, eccetera eccetera, prima aveva detto voto per i 5 Stelle perché sono vicini alla gente, dicono sempre la stessa cosa, per cui che cazzo vuoi, ti vanno a intervistare perché c'è questa questione a Ostia, ecco, c'è da dire basta. Però che la Raggi su questo in campagna elettorale disse, noi i voti di questi signori Spada non li vogliamo, cioè quando la Raggi, vabbè, ma sì, quando, ma questo politicamente, scusa, è rilevante, scusa, tu sai, il tuo amico, Diego Volpe Pasini, si sa che poverino è la Volpe, dice, non è una Volpe, l'avvocato ha ragione, gli ha detto 10 volte di andarsene, ragazzi, la, dai, mamma, non si posso. La mamma dei cretini è costantemente incinta, Interviene in questa carella anche il generale Pappalardo. Cadiamo nel grottesco immediatamente. Adesso interverrà anche quella dell'Impese, probabilmente. La signora dell'Impese. Che dà del cialtrone al giornalista. Pappalardo, il generale. Sì, sì, senti il generale. Dice sì, da condannare. Ma perché non chiami il generale? Il generale il discredito sull'arma. No, il generale. Invece oggi l'arma ha compiuto un atto fondamentale, quello dell'arresto del signor Spada. Quindi devi portare rispetto per l'arma. Non confondere il generale Pappalardo, il signor Pappalardo, che prende il vitalizio, dallo Stato e poi rompe pure i coglioni, non c'entra più nulla con l'arma, non fa più parte dell'arma. No, non chiamarlo generale, non è un generale. Ah, no, è uno non chiamarlo generale perché stai sputando sull'arma dei carabinieri. Quello è generale, carabinieri. Ma generale? Quale generale, quello lì, dai. Ma come no? È stato generale dei carabinieri. Generale. È stato, sì, basta, finito, dai, in pensione, arrivederci. Vai. Questo giornalista di Rai 2, non dimentichiamo, qualche mese fa ha intervistato me per due mesi, per due ore e mezzo. Abbiamo fatto un lungo viaggio da Napoli a Roma, dove io ho rappresentato quello che stava accadendo con questo movimento Liberazione Italia che vuole veramente cambiare il paese. Ho espresso sentimenti, ho espresso emozioni. E questo cialtrone va a mettere in televisione le cose che tendevano unicamente a ridicolizzare, a ironizzare sulla figura del generale Pappalardo e su questo movimento Liberazione Italia. La colpa è anche di voi giornalisti, ne pagate le conseguenze, pagati dal potere. Questo è matto, cioè. Questo è sempre Pappalardo. Sempre Pappalardo. Sempre Pappalardo. Vai. Voi facendo questi servizi rovinate il paese, anche voi giornalisti siete responsabili del degrado della nostra società. E ne pagate le conseguenze. Ne pagate amaramente le conseguenze. Non fate gli ipocriti a fare i servizi. Ci ha attentato contro la stampa, perché il primo attentato contro la stampa lo fate voi, che non dite quello che sta accadendo nel nostro paese, perché da questo regime venite profumatamente pagati. Vi dovreste vergognare. Pappalardo, ragazzi, vitalizio, mi segnalano che Sabaeta, se la voce è quella, è tornata dalla Bosnia. Addirittura un confronto con Salvini c'è stato. Questo è importante. È importante, credo che se la voce di questo piccolo confronto con Salvini è la sua, ma lo vediamo subito, lo sentiamo subito. Vai, fatemi sentire la voce di Sabaeta. Sabaeta, vai. Facci per favore, non ci vedere male. No, ma io non una mano che no, ma voglio essere come io voi. Ritengo incivile sia per voi che per vivere fuori queste condizioni di vita. Ma è lei o no? Ancora, fatemi sentire un'altra cosa. Cambiaci la vita, Salvini. Occorre la scuola, vivere coi diritti e doveri di tutti gli altri. Certo, noi vogliamo questa vita come vostra. No, ma secondo me non è lei. Non è lei, no, secondo me non è lei assolutamente. Allora, Mario da Bari, vai Mario. Pronto, buonasera Cruciani. Dimmi Mario, dimmi. Allora, io sono assolutamente d'accordo con Pappalardo e con tutti gli altri che hanno ragione, che questo ha fatto bene a dargli la tastata nei denti. Perché si sta esagerando. Scusa, non ho capito bene. Tu stai dicendo che ha fatto bene quello Spada a dare una testata sul naso, non sui denti, comunque va bene, è uguale. Una testata a quello là. Se stai dicendo sul serio, guarda benissimo, ascoltami. Questo è un cretino. La prossima volta deve passare ai politici. che sono i veri fautori dell'esasperazione della gente. Ma cosa c'entra l'esasperazione della gente in questo caso? Ma tu sei un cretino e basta. No, no, no, cretino sei tu e sei anche un provocatore. Il problema qual è? Sono quei maledetti ebrei, come lo stronzo che c'hai accanto, che stanno fomentando questa invasione di sti negri in tutte le città. Scusi, ci avete rovinato. Gli ebrei che fomentano l'invasione. Chiedilo a Soros, all'amico del coglione che c'hai accanto. Buonasera intanto. Buonasera, no, cambio tattica adesso, non insulto più. Buonasera, buonasera. Buonasera, c'è per cortesia un... No, ma questo qua a me c'è un'ambulanza, c'è un attimo. Siamo partiti da un'altra cosa. C'è un audio di un'ambulanza, c'è per cortesia quello. Un attimo, Cruciani, arriviamo. Io direi che fate i paraculi, lo sapete benissimo. Mario, scusa, non capisco. Cosa c'entra Spada con Soros, gli ebrei e i negri? Spiegami, cosa c'entra? C'è per cortesia. L'esasperazione della gente che si rivolge a questi personaggi. Aspetti, è chiaro che quello è un bandito. Senta qua questo rumore. Senta, stiamo arrivando. Eccoci, ecco che arriviamo. Quattro persone, camice bianco. Ci dà le sue coordinate gentilmente che arriviamo subito. Valenzo, te le do se vieni tu, ti faccio un regalino che non te lo ricordi più. Arrivano, grazie. Ma io non ho capito, Mario, ma veramente dici sul serio che Spada ha fatto bene a dare una testata in testa a quello? Spada ha fatto benissimo perché rappresenta. Ma perché? Scusa, perché? Te lo spiego. Ma che rappresenta? Ma basta. Ma quale esasperazione di cosa? Esasperazione di se stesso. Era esasperato perché quello gli faceva delle domande. Perché non ho capito perché è vietato fare domande, ragazzi, ma siete impazziti, siete. Qual è il problema? Non è che è andato là con un mitra quello là, o no, Mario? Cruciani stava provocandolo ad arte, perché c'è in atto una campagna per denigrare chiunque si oppone a sto regime di merda che è rappresentato dal PD. Ma perché Spada è un oppositore del regime? Lo consideri un oppositore del regime quello là? Ma che c'è? Ma quale regime? Gente che si ribella, è l'unica gente che si ribella. Questi aiutano gli italiani che hanno bisogno. Ma tu sai che famiglia ha questo Spada? Sai di chi è? Ma è un bandito, ma siamo arrivati al punto. Meglio il bandito. Meglio i banditi dei politici, perché i politici si stanno rovinando, invadendo. Io spero che lei sia un fake. Io mi auguro che lei lo dica come provocazione questa cosa qui, ma non merita neanche di essere ascoltato lei. Fermo. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presento La Zanzara. Vai giù, se volete parlare al telefono con La Zanzara da Fallotto 00240024, oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Parenzo, ti dovresti vergognare, t'affrontare, sei un coniglio, dovevi andarci a parlare con quelli di Casa Pound, non che adesso utilizzi la scusa di Ostia per non andarci perché ti stavi cagando sotto. Era da una settimana che andavi in giro con le mutande cacate perché hai paura, perché sei un coniglio. Ma tanto a te, anche se dovessero darti una testata, non ti pigliano nel naso per quanto sei basso. Ma va caga, Parenzo, eh! Ciao Giuseppe, sono io Fabrizio da Milano, sai che sono sempre d'accordo con te, ma sto giro ti devo dare torto, ha fatto bene Spada questa volta, perché è un pezzo di merda quel giornalista, gli continuava a rompere il cazzo, continuava, perché non l'ha fatta la stessa cosa con Poletti quando era nella fotografia con Casa Monica, perché solamente c'è di mezzo Casa Panda, ha dovuto fare il pagliaccio quel giornalista di sinistra. E poi un'altra cosa, lo sapevi con chi stavi andando a parlare, Spada si sa chi sono. Quindi sapevi anche a cosa andavi incontro, è un coglione, l'ha fatto apposta, tira la corda e ha preso le botte. Poi te, Parenzo, ti voglio dire che sei un buscetto e cagasotto. Non hai avuto neanche i coglioni di andare da quelli di Casa Pound perché sei un cagasotto, lo sapevo, pagliaccio. Uè, Parenzo, sono io Fabrizio da Milano, tuo incubo. Senti che puzza di merda, ti sei cagato addosso, coniglio. Non hai neanche avuto i coglioni di andare da quelli di Casa Pound, coniglio, sei un coniglio, buscetta, fai ridere, coniglio. Allora ragazzi, ragazzi, allora, abbiamo qui Parenzo, ecco, che allora ci spiegherà brevemente, no, però c'è brevemente da spiegare, il motivo per cui alla fine, secondo me, sbagliando, il mio parere è sbagliando. Per carità, è sbagliando perché lì dovevi andare lì oggi, proprio oggi che si parla, aspetta, proprio oggi che si parla dei legami tra Casa Pound e il clan Spada, o il signore là, Roberto Spada, che è uno degli appartenenti alla famiglia Spada, dovevi andare lì e pretendere delle risposte. Certo. Ma non mi sembrava quello il luogo dove farlo, perché avremmo finito. Ma come no, a casa loro! Avremmo finito per parlare solo del fatto di Ostia. L'invito era nato precedentemente al gravissimo episodio del giornalista che giace ancora sul letto d'ospedale appena operato. E quindi io, per rispetto verso il collega che è stato massacrato. Rispetto? Ma che mica è stato massacrato rapporti, a casa Paolo? No, ma siccome poi quei rapporti non sono stati, secondo me, chiariti fino in fondo, io non posso accettare di andare a dialogare in un luogo, cioè a casa loro. Un conto è farlo in televisione, come farò stasera da Corrado Formigli, che subito appena visto la mia disdetta ho detto non vado, non andrò lì, chiarite, e poi ci rivediamo volentieri un'altra volta da voi quando sarà definitivamente chiarita sia dal punto di vista giudiziario sia dal punto di vista politico quale tipo di rapporto avete voi con questi. Ma mi sembra una cosa formalissima. Eccolo là, ma quale formalità? Vado a discutere, oggi li vedo, perché oggi vado a Piazza Pulita e sarò pure qui con Di Stefano, quindi non mi tiro indietro assolutamente. Ho capito, andavi lì nella tana del lupo a combattere uno dei posti più sicuri è proprio Casa Pound, paradossalmente, cioè dopo che avvengono questi fatti, uno dei luoghi più tranquilli. Dicono coniglio, come risponde quelli che ti dicono coniglio, quelli che ti dicono. Bene, andiamo Massimo dalla provincia di Salerno. Nello spirito della trasmissione, bravo, risponde bravo. In questo Massimo modo. Provincia di Salerno. Coniglio, ma su questo, sul fatto che si sarebbe parlato solo di questo, hai ragione. Solo questo. Però io invece voglio confrontarmi con loro su immigrazione, mondialismo, euro, Soros. Io su questo ius voglio confrontarmi. Sì, però dico mio, oggi era il giorno oggi vero. Invece, era il giorno loro, per andare lì no, a combattere. Ma la gravità da combattere, ma loro devono rispondere seriamente su quanto è avvenuto a Ostia. Vabbè, glielo domandavi. Dai, vabbè, per te tutto è vabbè. Io lo domandavi vabbè. Lì a casa loro, vabbè, dai, Massimo, provincia di Salerno. Te, tutto vai. È vabbè, tutto ciao, normale. Ti formalismi? No, perché avrei ecco voluto parlare di questo invece che di quest'altro. Certo. E quello è un dibattito che sarebbe inevitabilmente finito solo sull'attualità. Ottimo, perché quello ottimo, è il tema. Andavi lì a combattere sull'attualità, chiedevi spiegazioni, i legami, i rapporti, quello era, grande spettacolo. Vai, Massimo, provincia di Salerno. Telecamere, casino, polizia, là c'era la battaglia. Ma quale? Ma sei impazzito? Massimo, provincia di Salerno. Lì c'era lo spettacolo, lì c'era la battaglia, lì c'era la lotta, ma non c'è nessuno spettacolo. Ma tu sei impazzito, non c'è nessuno spettacolo. C'è un ragazzo giornalista con il naso fracassato da un signore che si chiama Spada, che per fortuna oggi ha visto l'intervento pronto, ritardato di un giorno per motivi giuridici che sappiamo, ma bellissimo quell'intervento di quei carabinieri, di quello Stato che finalmente solca le vie di Ostia, bussa a casa di questo signore Tocdoggi, che è carabinieri. Ah, siete arrivati? Sì, siamo carabinieri. Prego, venga, si accomodi per cortesia. Queste due macchine con le luci blu sopra non suonavano, infatti avrebbero dovuto suonare. Quando si fanno le retate, adesso non voglio insegnare nulla a nessuno, per carità, ma quando avvengono le retate, ad esempio a Palermo, la Camorra, suonano, a Reggio Calabria, ci sono queste immagini nei telegiornali dello Stato. Quanto è bello lo Stato quando interviene con queste retate, quando lo Stato si fa vedere, lo vedi, ma lo dovevi senti. Dovevi andare lì a fare una grande battaglia, un grande spettacolo, un grande show nella tana del lupo, a dire con carte in mano, voi che legami avete lì, e se non ti davano risposte te ne andavi. Quello era lo show, quello era lo spettacolo. A Piazza Pulita, ore 23, Piazza Pulita, alla 7 saremo lì, ci ha invitato l'ottimo Formigli e saremo da Formigli. Ma sai, là a casa loro dovevi andare, mica in televisione, sarà TikTok e TikTok. Ma che TikTok e TikTok? Massimo, dimmi. Giuseppe, scusami, ma tu che ragioni con questa persona? Ti prego. Vabbè, posso farti una domanda provocatoria? Dimmi, Massimo, dimmi. Chi sarebbe questa persona? Dimmi, ma no, se tu vai a 180 all'ora sull'autostrada contro mano, che cosa ti aspetti? Sì, ma di cosa stai parlando, Massimo? Cosa esattamente? Qual è l'argomento? Il prete che ha fatto quelle affermazioni. Il prete, amico mio, il prete è un coglione. Te lo posso dire, è un coglione, prete, punto e basta. Hai parlato come Donato, hai fatto come Donato da Varese. Hai fatto come Donato da Varese. È uguale ormai. Cioè, gli uomini della Zanzara, gli ascoltatori della Zanzara sono entrati dentro di te ormai, perché hai risposto come Donato da Varese. Rispondi così. No, io no. Allora, Massimo, non ho capito una cosa. Spiegami. Che vuol dire? Siccome è andata col magrebino. Ma te lo dovevo aspettare quella cosa. Sì, amico mio, al di là di questo, ha sbagliato a parlare il prete, va benissimo. È vero, ha sbagliato per un uomo di chiesa, non dovrebbe dire. Ma è quello il punto, che poi la ragazza sia stata imprudente a frequentare, cioè, può darsi, non è che se tu vai con un magrebino per strada per forza devi essere violentata, non è detto, ma comunque ma in ogni caso sei ubriaca. Ma ho capito Massimo, il punto fondamentale è un altro, è che quello fa il prete, amico mio, gli ha detto che non ha pietà per una che è stata stuprata, minorenne stuprata. Perché questa è la stessa affermazione. Ma io lo so che voi date ragione al prete, lo so che date ragione al prete, lo so. Quando Libero ha detto quella frase, il titolo del giornale di ieri, ha detto per fermare Renzi bisogna spararlo. È un'affermazione che facciamo tutti. Ma che c'entra quello? Ma cosa c'entra? Ma perché? Cioè, questo qua ha scritto, scusa, questo qua ha scritto un'altra cosa. Allora, a parte le sue considerazioni sull'integrazione, sui magrebini, eccetera, eccetera, ha detto: ma dovrei provare pietà? No, chi sceglie la cultura dello sballo, lasci che si divertano anche gli altri. Cioè, essere delle cose folli. A parte che la cultura dello sballo non necessariamente porta agli stupri. Cioè, non è che tu se ti sballi. Ma non sta a un prete dire ste minchiate. Con determinate persone te lo puoi aspettare. Ma vabbè, cosa Gennaro c'entra? Da Caserta, vai. Gennaro da Caserta, vai. Gennaro. Buonasera. Dimmi, sì. Gennaro, dimmi. Senti, io volevo dire una cosa, semplicemente che lì ci sono due estremi, no? Il discorso spada, sì. Perché io dico, ma c'è una regola in cui un giornalista deve potersi fermare quando una persona dice di non voler dire... ragazzi, voi state spostando l'attenzione su altro. In qualche modo lo sta difendendo, perché se dici che un giornalista insiste, dunque ci vogliono delle regole per fermare il giornalista, anche io penserei a delle regole per fermare quello che dà le testate, non a uno che fa le domande lì con un microfono. Non mi pareva tra l'altro particolarmente aggressivo, a parte che anche inseguire qualcuno, molti protestano, il giornalismo oggi è solo inseguimento, può darsi, sì, uno può criticare le cose per un po' ai magistrati. No, ma scusa Gennaro, che cazzo c'entra? Voi state spostando la cosa da chi fa le domande a chi dà le testate. È una cosa folle. Io non difendo, a me non me ne frega niente, lo sapete che sono contro le categorie, contro le corporazioni. Figuriamoci se difendi i giornalisti. Io questo qua manco lo conosco. Non so chi è, non mi interessa, questo è il punto. Ma quello ha dato una testata in faccia, punto e basta, non si discute. Che cosa può avere fatto quello là? Faceva delle domande, è stato un'ora lì, voleva fare un servizio. E qual è il punto? Devi dare una testata in testa. Però era troppo insistente. Allora mettiamo che sia stato troppo insistente. A parte che essere troppo insistenti, allora dovrebbero dare. Guarda, Gennaro, dovrebbero ammazzarmi di botte ogni sera. Scusa, perché non è andato a intervistare a quelli di Casa Pound di andare lì? A lei di cosa sta discutendo? Ma davvero lei sta discutendo sul perché è arrivata la testata? Cioè, lei davvero pensa che sia oggi giusto discutere su un'aggressione fisica? Cioè, ma qui siamo alla follia. Riccardo, provincia di Roma. Sì, salve, buonasera. Dimmi Riccardo, dimmi. Ma secondo me è stata un po' troppo fomentata tutta la situazione, perché collegare lo spada a Casa Pound, cioè nel senso, Roberto Spada è una persona che fa una marea di attività non lo conosco di persona, ma avendo fatto pugilato per tanto tempo è una persona che comunque si conosce. Lei abita a Ostia? No, abito all'Eur, molto vicino, quindi zone che conosco e parlo di cose che conosco, ha fatto politica lei? Sì, ho fatto militato per diversi anni con Casa Pound, ma non è una cosa. No, conosce la, più o meno l'ambiente. Conosco questa situazione. Allora, Riccardo, Marcella. Sì, voglio capire una cosa. Secondo te, Riccardo, il giornalista era troppo insistente? Ma la dinamica secondo me è sbagliata, nel senso, Luca Mastella conosce Roberto Spada perché frequentano quel municipio da una vita, sono persone che sono cresciute insieme, quindi in questi piccoli comuni, di... in questo piccolo dunque, luogo è ovvio che dunque sia così. Cosa vuoi dire? Che non si possono fare domande tra gli Spada e coso? No, però se tu insinui immediatamente che il legame che c'è tra una persona di nome Spada Casa Pound è un legame mafioso, un legame non mi pare che le domande illecito. Che abbiamo sentito, non mi pare che il giornalista dicesse lei è ho capito, quello fa parte di una famiglia però in cui ci sono inchieste per mafia, inchieste per reati vari, non è che sono tutte cose campate in aria, il fratello è condannato a 10 anni, cioè non mi pare. Però nel senso, quando un giornalista si presenta davanti una persona che probabilmente non sa nemmeno un minimo, sì, però dei suoi perché racconti. Spostate l'attenzione sulle domande che fa uno può fare tutte le domande che vuole, l'atto successivo può essere quello di dire guarda, se quello avesse detto vai però, a fare in culo testa di cazzo se gliel'avesse detto 50 minuto, ma non è che c'è un'autorizzazione alla testata dopo 25 vaffanculo, ma non è Luciani, non è quello il discorso, cioè io non sto parlando della testata insieme, a me è un atto vile. perché tu non prendi. E allora basta, poi grande. Dopo si può discutere del giornalismo, delle cose, delle domande, dell'insistenza, della superficialità, quello che vuoi. Fa ridere, quello che vuoi. Fa ridere. Cosa? Quanto è stata montata tutta questa situazione? Ma no, ma è montata, è normale, la testata ha cambiato tutto, altrimenti non se ne parlava, no? Fermo là. Ho capito, è così però, dai. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da su piazzaitalia.it. Acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara sta seguendo il tuo consiglio, Cruciani. Me la sto facendo ricrescere e devo dire che col pelo, beh, è molto più arrapante. Rocco for President, o WWF o direttamente la presidenza del consiglio. A Rocco sei un mito, fonda quel partito e te voto. Oh, so 20 anni che non voto più e ho giurato che non sarei più tornato a votare, ma se tu fondi il partito ti giuro te voto. Dopo 20 anni torno a votare, più pelo per tutti, dai. Allora ragazzi, è molto semplice la cosa, voglio un po' deviare per qualche secondo, sì, poi riprendiamo, sì, sì, su spade eccetera. C'è Parenzo qui che è impegnatissimo con tutti i documenti, sì, con tutte cioè, una roba incredibile, sì, ma sì, sembra, sì, che sì, sei la Digos, sì, sei, ma i documenti, le cose, procure, una cosa, sì, incredibile, sì, sì, torniamo su spada, su queste come cose qui, come dice Darmina, abbiamo le carte, tra pochissimo, sì. Io voglio farvi riascoltare, sì, avete sentito riascoltare qualche reazione degli ascoltatori su un tema fondamentale che è il pelo della figa. È fondamentale, è fondamentale assolutamente. Rocco Siffredi ieri in conclusione proprio di trasmissione ci ha fatto questo regalino, cioè la sua proposta, perché anche lui era rimasto colpito dai dati che abbiamo dato l'altro giorno, cioè 3 milioni di persone che hanno problemi di erezione in Italia, caro Davide. So che magari alle 19:40 non è un orario consono per no, queste cose, no, ma più che altro non è un tema che mi riguarda e quindi è un tema per il ho quale capito, ho però riguarda molti interesse. Italiani riguarda molti italiani, riguarda probabilmente più del caso Spada, più del caso Spada, questo, so, questo dovresti chiedertelo, più del caso Spada. Allora i due piccoli file audio, come si dice, i due piccoli contributi, certo, del signor Rocco Siffredi, e poi torniamo alle vostre telefonate anche su questo argomento, su quello che volete, perché sennò mi faccio anch'io due coglioni così, sempre a parlare del signor Spada, la testata. Per carità, torno subito con Matteo da Milano, Massimo da Brescia, Giuseppe perché da Perugia, Cristian da Trieste, ascoltatori, gente che ci ascolta, gente che ti paga, gente che contribuisce. Ma non mi pagano mica quei miserabili lì, a me, sai, mi paga la Rocco Siffredi. Rocco Siffredi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Allora ascoltate, io ho sentito ieri che ci sono 3 milioni, oltre 3 milioni di persone che hanno dei problemi di erezione in Italia, e voi sapete che il problema è grave. Io ho però la soluzione, ce l'ho la soluzione, voi lo sapete che sono in questo settore da tantissimo tempo e so cos'è una mancata erezione. Ragazzi, dobbiamo fare una petizione, una raccolta firme, bisogna rimboscare, basta disboscare, cioè ragazzi, dobbiamo tornare al pelo, il pelo, l'eros, l'erotismo, la sensualità, la donna vera, il pelo. Tutti gli uomini si fanno crescere la barba, le donne si sbarbano, cioè capite che c'è un problema? Io ve lo dico, petizione, rimboschiamo le donne, rimboschiamole, perché questa è la vera sensualità, la vera sessualità, e tagliatevi sta cazzo di barba. Uomini, uomini, donne, donne, datemi retta e tutto si riaddrizza. Un genio, ragazzi, dimmi se non è un genio. Vabbè, dimmi se non è un genio. Vabbè, più tardi vabbè, ti faccio ascoltare l'altro pezzetto. No, ma come vuoi ascoltare l'altro pezzetto, che paragona l'Amazzonia alla figa. È l'orario in cui escono i massimi dirigenti delle più importanti aziende di questo paese. Ma sei un distruttore. Non sono interessati, secondo te? Non sono interessati, dire, all'oggetto? Ma Matteo da Milano, vai. Saranno Matteo. Anche ma... Matteo da Milano, richiamatemelo, dai. Allora, Massimo da Brescia, vai, Massimo. Sì, buonasera. Dimmi. chi va col magrebino e poi si sballa, sì, deve mettere in conto la stuprata, è una cosa non ce la posso fare. Succede col tunisino, con l'egiziano. Adesso io non so bene i dettagli di questo, scusami Massimo, io non so bene i dettagli di questo stupro, di che cosa è accaduto. Certamente se tu vai con un gruppo di persone, diciamo, che sono che ai margini della società e ti sballi, ti può succedere qualche cosa, d'accordo. Bravo. Però qui non è il punto, non è questo, non si sta parlando dell'atteggiamento della ragazza, qui si sta parlando di un prete, è diversa la cosa. Ma perché spostano l'oggetto? Sta parlando di un prete il quale dice che non ha pietà per queste situazioni. Ma ragazzi, dai, su, ma che cazzo l'ha fatto in modo pedagogico, da buon pastore, un avviso importante, dice: guarda che perdi la mia pietà. Ho capito, per carità, io rispetto la tua opinione. Questo luogo è il mondo al contrario, questo posto qui. Questa zanzara è il mondo capovolto. Quello che discute sulla liceità della testata perché il giornalista insiste troppo e quindi è giusto spaccargli il naso. Questo che anziché prendersela col prete si mette a discutere del rapporto sessuale che avrebbe avuto con... Questo qua è il mondo al contrario, questo luogo. Non c'è da giustificare. Siete un branco di pazzi, di disadattati mentali. Voi che telefonate. Ecco qua che adesso gioca sulla voce, perché la voce da Frocia, stia zitta. Zitta un attimo, per favore. Però questo io rispetto l'opinione di Massimo. Pensa di insultarmi dandomi della checca per caso, cosa che però non un prete sono. Che scrive, no, un prete che lei fa piacere, quindi ecco, no, d'accordo. Però a me può anche divertire può anche divertire un prete che dice: tesoro, mi dispiace, ma frequenti Piazza Verdi. È pedagogico. È pedagogico, dai, su, non esageriamo. Pedagogico, non penso che famiglia, così come c'era il prete, non è che la gente smette di andare in quella piazza o di bere o di bregarsi perché lo dice un signore che si chiama Don Lorenzo Guidotti, non gliene frega un cazzo ai giovani di quello che dice, non è stupido. Grazie Massimo. Luigi, provincia di Chieti, anche vai, grazie Luigi. Dici, ma certo, assolutamente grazie. Chi gli devo dire, sei un coglione, basta. Ha fatto bene a violentare, ma grazie per il suo contributo. Quale contributo, che contributo? Luigi, allora grazie Luigi. Buonasera, grazie. Un cazzo. Ascolti, io sono uno di quelli che voleva dare la sua solidarietà a Spada e denunciare il fatto che comunque c'è stata una diversità di trattamento, perché altri inviati, tipo quelli di Striscia la Notizia, come Luca Abete, come Edoardo Stoppa, che vengono, non dico in ogni servizio, ma in moltissimi servizi vengono pestati, non ho mai visto lo Stato presente e a difesa di queste persone. Oppure dov'era lo Stato quando il magrebino ha violentato questa ragazza? Quindi, ma cosa c'entra? Scusa, perché sei solidale con Spada? Finire, mi spieghi perché mi sei solidale? Finire, spiegami. Non ho finito. Solidale con Spada? Cosa cazzo c'entra? Perché sei solidale con Spada? Solidale con Spada perché tutti quanti vi state rivoltando contro Spada, perché vi volete rivoltare e lo volete associare per forza ai movimenti di destra, perché da quando è uscito questa cazzo di legge Fiano, tutti quanti che vi volete rivoltare contro la legge Fiano e la volete demonizzare. Non c'è la legge Fiano ancora, lascia perdere, va bene, dai, perché il vento sta cambiando. Ma cosa c'entra il vento sta cambiando? Ma cosa, scusami? Ma scusa, ma perché la testata non è grave? Certo che è grave, ma non è stato l'unico attacco ad un giornalista. Perché questo è stato trattato con tutto questo clamore nazionale? E perché? Per fermare Casa Pound? Perché cosa? Il complotto contro Casa Pound? Certo, è un complotto contro Casa Pound e contro tutti i movimenti di destra. Perché allora Luca Abete non deve essere tutelato come giornalista? Davide da Milano, ma chi ha detto che non è tutelato? Davide da Milano, fatemi vedere una manifestazione. Ma cosa? Ma qui infatti non c'è sta. Dimmi Davide, dimmi. Mi dispiace, ma sono anch'io d'accordo. Quello che ho notato, Davide, un attimo. Davide, vengo subito da te. Quello che ho notato, caro Davide, è che veramente, questo è curiosa la cosa, sembra che noi ci difendiamo come casta. Se avesse dato una testata a un'altra persona sarebbe stata la stessa cosa. E però è curioso che molti interventi sono contro i giornalisti, rompicoglioni e provocatori. Questo è il punto, Davide, dimmi. Io non la metto in quei termini, però obiettivamente devo dire che se io avessi litigato con uno come Spada e mi dava una testata per motivi di viabilità e te lo raccontassi, mi diresti: non me ne importa niente. Ma che c'entra? Quello non è però per un motivo di viabilità, però non è un motivo di viabilità, scusami. Sì, però, cioè, ci sono tanti caduti sul lavoro. Cioè, secondo te se ne parla troppo perché è un giornalista, dunque noi difendiamo... sento un odore di strumentalizzazione troppo grande. Cioè, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Ragazzi, ma io, no, però, vabbè, certo, un giornalista che stava facendo delle domande. No, però lui, lei dovrebbe essere felice di giornalisti che fanno le domande. Dovrebbe difenderlo. Ma lei dovrebbe. Ma no, ma non facciamo paragoni del cavolo. Lei dovrebbe difendere il fatto che i giornalisti possono continuare liberamente a fare delle domande senza essere minacciati, sprangati. Però lui dice un'altra cosa, lui dice rispetto ad altri casi, questo caso qui viene esasperato perché si tratta di giornalisti, questo è il punto. Vabbè, Davide, no, ciao, ciao, grazie, ciao. Anche dirti, anche ciao, no, no, basta, basta, vedere. Basta, via, basta. Via, comunque, allora, abbiamo con noi quasi in un anticipo, caro Parenzo, sì. Quasi in una sì, no, come si dice? Come un prepartita, sì, quasi un prepartita. Simone Di Stefano, uno dei dirigenti di Casa Pound, eccoci qui, ciao Simone, buonasera. Buonasera. Tutti, buonasera, un caro ciao. Saluto. Ciao, allora. Caro saluto, Simone. Questo lo dice Fusaro. Lo dice Fusaro quello saluto. Là, E lui allora, è d'accordo con Fusaro. Poi, allora, Di Stefano, subito una cosa. Secondo te, proprio rapidamente, ha esagerato il giornalista o no? No, no, il giornalista non ha esagerato, i giornalisti possono fare tutte le domande che vogliono e non si risponde a capocciate. Dunque non ha rotto i coglioni, diciamo, non è stato troppo insistente stando lì un'ora, due ore, non so quanto è stato poi da... I giornalisti fanno il loro lavoro, se non li vuoi ascoltare chiudi la porta e non ci parli. Ma quello di Spada è un atto criminale? Beh, quello di Spada è un crimine perché è uscito così dall'ordinamento e quindi ovviamente lo pagherà nei confronti della giustizia, questo è ovvio. C'è troppo clamore intorno a questa storia secondo te perché vogliono, non lo so, penso a immaginare, immagino quello che poi... che c'hai tu nella testa, cioè secondo te tutto viene esasperato come ha detto prima l'ascoltatore? Perché siete di mezzo voi e la famiglia Spada? L'atto ovviamente è clamoroso perché non si può prendere una testata in faccia in diretta durante una registrazione e quindi quello che ne consegue ovviamente è un clamore incredibile. Quello che è un po' orchestrato secondo me è un mese di inchieste su Casa Pound e questo endorsement che poi non è un endorsement perché non è che ha indicato il voto a Casa Pound, ha detto qui nel mio quartiere c'è solo Casa Pound che fa politica e che dà una mano ed è la verità. E questo è innegabile. E quindi da questo un mese di orchestrazioni, poi uscite l'inchiesta sull'Espresso, dove prendi i soldi Casa Pound. Beh, questo Pound. È legittimo. Però tutte le inchieste sono legittime. Viene fatto su tutti, sì, viene fatto però, su Renzi, sì, viene fatto su Berlusconi. Su Berlusconi si è scritto molto di più, su Berlusconi. Ma mi auguro che tutte queste inchieste ci portino i voti che hanno portato a Berlusconi o che hanno portato ai grillini quando hanno colpito loro. Sì, però c'è un fatto, scusami Simone, il punto non è questo, voi avete preso il 9% a Ostia, no? C'è un gran risultato, eccetera, eccetera. Qualcuno dice, sono tutti voti, siccome si tratta di poche migliaia, che insomma gli Spada hanno contribuito a portare questi voti qua, sì o no? Questi voti stanno spalmati su tutto il decimo municipio, che non è solo Ostia, noi a Nuova Ostia abbiamo preso... Vi hanno aiutato o no a portare ad avere questo successo gli Spada? Ma assolutamente no. Il nostro sono voto, voti che puzzano quelli, il nostro possiamo voto. Dirlo però questo? Ma giusto, quali voti? Stefano. Quali voti? I voti degli Spada sono voti che puzzano, cioè allora, che puzzano di Spada, criminalità, detto, di allora, clan, di malaffare. Guarda, Parenzo, funziona così: ai criminali viene tolto il diritto di voto, solitamente, no? Vengono tolti i diritti politici. Chi sì, però controllano i voti. Lui stesso ha detto che controlla 15-20 mila voti localmente. Una volta ha detto in un'intervista, cioè questi qua controllano ma i voti che locali. Controllano, ragazzi, cioè, ma scusate. Non poi, controllano voti, cioè Roberto Spada non controlla. Ma secondo voi la criminalità organizzata appoggia un partito estremista e radicale, dipinto da tutti come il demonio, che non vincerà mai le elezioni? Dipende. Per ottenere che cosa? No, ma questo infatti è la mia tesi di oggi che ho sostenuto all'area che tira. Non è che il crimine organizzato punta su Casa Pound, casomai punta su altri perché allora, non... punta Ostia, su quelli che Ostia. Potenzialmente possono vincere il crimine Ostia organizzato ha vinto il centrodestra e seconda di pochissimo è arrivato il 5 Stelle, quindi che mi volete dire su chi puntava la criminalità? Sì, però c'è un fatto. Allora, c'è un ma volantino. Non è così, non c'è un voto criminale organizzato diretto. Lì c'è una povertà assoluta. Stai dicendo che lui non controlla voti? Questo Roberto Spada non controlla voti? Sì, ma li controlla. Quanti ne può controllare 200, 300? Quanti ne 200, può controllare? 200 su come dire, una popolazione sarebbe, attiva, sarebbe poco rispetto a qualcosa. Poi se sono veramente 200. Allora, io voglio capire una cosa, scusami, Simone. Allora, ci sono però c'è la questione della foto del candidato vostro che si chiama Marcella Ostia e anche un'amicizia. un'amicizia, mai smentita, un'amicizia abbastanza chiara, che ho visto anche dei messaggi che si scambiano lui e anche la fidanzata di Marcella con questo Roberto Spada, detto anche a Robè, ti stanno criminalizzando eccetera eccetera. E poi c'è anche un volantino in cui il vostro simbolo Casa Pound è insieme al simbolo della palestra che è di Spada. Allora sì, tutto questo significa che c'è una vicinanza tra gli elementi locali di Casa Pound e questo Spada. C'è poco da fare. Allora scusate, la palestra, noi abbiamo fatto questa festa e Luca Marcella ha organizzato la festa con la palestra che è di Roberto Spada in piazza Gasparri, ovvero dopo 15 anni di eroina abbiamo riportato i bambini a giocare in piazza, va bene. Vabbè, abbiamo questo... fatto la cosa con la Famos, che è la palestra di Spada. Di Spada, bene, sì. Allora quando fa la festa con Casa Pound è un delitto, invece quando fa il 25 aprile con i partigiani nella festa dello sport tutti gli anni nel palazzetto di Ostia, ma io non ho detto che fa male, cioè che avete fatto male a fare le cose insieme. Io sto dicendo semplicemente che questo Spada è un elemento che appartiene ad una famiglia criminale, sì o no? Lo riconosce che gli Spada sono dei criminali? Perché altrimenti, se non partiamo da questa base, no, lui poi può anche non essere stato incriminato adesso, ha dei piccoli precedenti, lui Roberto Spada, però fa parte di una famiglia di criminali e lui stesso in questa azione che ha fatto l'altro giorno si è dimostrato un criminale, o no? Allora, lui si è dimostrato un criminale in questa azione che ha fatto questo giorno. La famiglia Spada è una famiglia di 250 persone, 300, non so quanti. Il fratello in galera, il fratello, i fratelli di Roberto Spada sono dei criminali, hanno subito delle condanne, inchieste per mafia e tutto questo. Ma una forza politica non dovrebbe prendere, non dovrebbe stare più attenta a questi rapporti qua, cioè, e questo è il punto fondamentale. Avete commesso un errore da questo punto di vista. Ma noi la festa l'abbiamo fatta 18 mesi fa. Ma non è solo la festa, oggi, perché ci sono degli scambi, sono amici. Oggi alla luce delle inchieste e degli arresti della famiglia Spada e tutto quanto, non ci sarebbe una festa in piazza organizzata con la sua palestra. Però scusami, l'amicizia tra Spada e Marcella, cioè il vostro candidato, è abbastanza evidente. Uno può essere amico di tutti, però deve riconoscere che è amico di uno che fa parte di una famiglia di criminali. Punto. Sì. Cioè, il tuo candidato Ostia è amico di una famiglia di criminali. E questo è il punto. Che cosa vuol dire amico? Amico? No, è amico. Si scambiano messaggi con uno che fa parte di una famiglia di criminali. Si scambiano messaggi con una persona che fino a ieri... No, messaggi di amicizia. Di amicizia. Censurato. Ok, hanno organizzato in piazza una festa insieme a quella palestra. Il signor Roberto Spada ad Ostia è amico di tutti, capito? Anche di gente del PD. Qui ci si scorda che questo municipio è stato sciolto per mafia per colpa del Partito Democratico, di un esponente condannato a 5 anni. Ma ci mancherebbe. Non ci mancherebbe, perché ci mancherebbe altro. Non ne ho sentito parlare da nessuno in questi giorni, capito? E qui si nascondono i problemi sotto il tappeto quando si fanno questo tipo di inchieste, parlando solo di Casa Pound perché c'era Spada a fare la festa. La Raggi disse una cosa in campagna elettorale, si può contestare su tutto, la Raggi, io sono il primo ovviamente a fare, lo faccio ogni giorno da questa radio, però la Raggi disse i voti degli Spada noi non li vogliamo. Bene, allora una bella frase effetto, permetti Parenzo, che questa... non serve un cazzo, fammi passare questo termine, perché Virginia Raggi, che è il sindaco di Roma da un anno e mezzo, domani mattina può andare a Nuova Ostia a riaprire lo skate park, che è il posto pubblico dove i bambini devono fare lo sport, può riaprire le serrande dei negozi e darle in affitto a costo zero ai giovani che vogliono lavorare, può requisire le case di proprietà del costruttore Armellini e darle a costo zero le famiglie che ci vivono senza farle via nel racket. Virginia Raggi, questo invece di parlare di fiaccolate, non cambiate un cazzo ad Ostia. Però scusami, Di Stefano, allora è meglio Spada delle fiaccolate, allora meglio quelli no, tu è dici. Meglio fare hai detto che la palestra inutili, capito? Anch'io sulle uscite inutili sono strappacore, capito? Ma sulle fiaccolate sono d'accordo. Non voglio potete mafiosi, fai il cazzo del tuo dovere, Virginia Raggi, questo devi fare. Ma sulle fiaccolate posso essere d'accordo con te che non cambiano nulla, su questo non c'è dubbio, però c'è un fatto. Non è detto che non cambiano nulla. Le fiaccolate non cambiano un cazzo. In Sicilia con la mafia c'è stato un grande movimento su cui ancora non avete fatto chiarezza fino in fondo. Questo te lo dico, sai che io non ho un atteggiamento ostile nei confronti di Casa Pound, non ce l'ho mai avuto, perché finché un partito si può presentare alle elezioni questo si può presentare altro, difendo anche sono anche contro legge Fiano che voi combattete, no, ma io no, il punto fondamentale però è un altro. Non avete ancora chiarito fino in fondo una cosa. È o no imbarazzante il fatto che il tuo candidato a Ostia sia amico di un personaggio che si è dimostrato quello che si è dimostrato l'altro giorno e soprattutto fa parte di una famiglia di criminali, sì o no? Siete stati leggeri in questo, nel questo rapporto, punto, nella no? gestione di questa roba? Questa è la domanda. Ma non è che se uno fa politica esce dal suo mondo e dalla sua vita. Tu in che quartiere sei cresciuto, Giuseppe? Perdonami. Ma io sono cresciuto in Sicilia, pieno centro. Certo, a centro. Non so come si vive in periferia. Piazza di Spagna, certo. Piazza di Spagna, Cruciani. Bravi, piazza ecco, allora andate a crescere, no, io a Padova. Ma che vuol dire questo? Cosa vuol dire? In un quartiere popolare. Io sono cresciuto alla Garbatella, ok? Torno perché nel mio per quartiere... fare politica bisogna essere per forza amici di Spada, non ho capito. Io sono cresciuto alla Garbatella, torno nel mio quartiere soltanto per funerali, capito, di miei amici che sono morti, che hanno avuto altre di droga, di droga, allora? Che sono morti rispetto a altre storie rispetto alla mia, capito? È gente del mio quartiere, la conosco e continuo a conoscerla. Ma cosa vuol dire? Che vuol dire? Che bisogna essere... Che non devo avere, non devo conoscere una persona, non devo parlare con una persona se la incontro per ma strada. Ma una cosa è parlare, una cosa è fare delle cose, collaborare con una persona. Parlare, no, ma... Stiamo parlando di parlare, voi state parlando di parlare. Va bene, fermo, fermo lì e torniamo subito per altri 5 minuti, fermo lì, fermo lì. La Zanzara. Andate a provocare dei mezzi delinquenti e vi lamentate di una testata in faccia. Allora cambiate mestiere. Se il giornalista insiste è un rischio del mestiere, come chi entra in casa d'arte, ragazzi. Ma che cazzo state a dire? Eh? Non è il diritto di rompere i coglioni. Comunque ragazzi, è incredibile, è veramente incredibile, questo lo vorrei sottoporre pure all'attenzione di Di Stefano, che ha preso una posizione diversa da quella di questi ascoltatori. È veramente incredibile come moltissime persone, sapete che la Zanzara è anche un da questo punto di vista una, no, una piccola sentinella di quello che avviene nella società. No, siccome, è una colonscopia. Beh sì, una colonscopia, bravo, sì, una colonscopia. È incredibile come molte persone si sono schierate apertamente, non dico dalla parte di Spada, ma dicono, alcuni sì qua. Altri dicono il giornalista se l'è andato a cercare. Voi state difendendo il giornalista semplicemente perché siete giornalisti pure voi. La roba è veramente incredibile. Però volevo chiedere a Di Stefano una cosa. Roberto Spada, secondo te, è un, da quello che hai detto, la palestra e altre cose, è un valore aggiunto per Ostia? Cioè porta vantaggi a Ostia, per la popolazione di Ostia? Allora, non Roberto Spada, ma la sua palestra, okay? Che è l'unica. Vabbè, però è sua. È sua, della moglie, sì, diciamo, sì, bravo, la compagna, non so chi sia. È sua, è suissima. È l'unica cosa aperta in Nuova Ostia e quando, capito, il comune però è andato lì a chiuderlo, si è scoperto che lui organizza i corsi gratuiti per i bambini, organizza tante cose, tutti i genitori. Cioè, una brava persona, è una brava persona, no, secondo te? La sua gratuiti. Palestra, la sua palestra. Ho capito, è sua, però è una brava persona, secondo te, sì o no? Cioè, è un buono, cioè è uno generoso. Visto è uno... quello che è accaduto, almeno con gli occhi di oggi, si può dire, sì, che quella palestra non può essere più un luogo dove vanno i bambini a giocare. Allora facciamo pure David, che non è più un luogo che può essere chiamato il 25 aprile per festeggiare. La questo, se è così hai ragione, se è no, così hai ragione, ma sicuramente non è che, cioè, io fino a difendo, per te, scusa, io, la ma per carità, ma mica sono a corrente alternata io, dalla regione Lazio, ma non lo so, Roma, questo lo vado a verificare, 13, questo lo vado a verificare perché non lo so, a tutte le, se è così, anche quelle per il 25 aprile, quindi scusa Simone, secondo, se è così lo vado a verificare, lo vado a verificare. Simone, scusami, testata a parte, secondo te Roberto Spada è una brava persona, cioè una persona che fa del bene a Ostia? Allora, oggi ha dimostrato di non essere una brava persona perché ha colpito una persona così in modo gratuito. La sua palestra, l'attività di quella palestra... È un valore aggiunto per Ostia. È un valore aggiunto per quel quartiere, non per Ostia, perché vabbè, voi quel quartiere non lo conoscete. Non no, sapete, non lo conosco, però vabbè. Andateci, troverete una specie di deserto in cui l'unica cosa aperta è quella palestra. Ora, lo Stato si è manifestato lì solo cercando di chiudere quella serranda, non di aprire altre cose, non di aprire un'altra palestra. Vi hanno mai dato dei soldi? Gli Spada a voi a casa Pound? Ma quando mai? Domanda. Assolutamente no, ma assolutamente mai. Proprio. Putin? No, ma che c'è? Putin mi ha mandato un carico di caviale. Di Kalashnikov. No, perché lui è stato spesso in Russia. Un carico di Kalashnikov. È stato ospite. Ragazzi, che ha incontrato. Leggetevi bene tutte le inchieste dell'Espresso, che ha scoperto che Casa Pound, che i dirigenti di Casa Pound o qualcuno di Casa Pound addirittura hanno aperto dei ristoranti. E abbiamo aperto anche delle marche d'abbigliamento, cioè di una cosa proprio da chi votate al ballottaggio? Cioè, chi indicherete qualcuno? Non indicate nessuno? Andate al mare perché i 5 Stelle sono una iattura per la città e non hanno fatto una massa. Beh, e Fratelli d'Italia? In questo anno e mezzo. E i Fratelli d'Italia fanno tutti gli schistignosi, no? Casa Pound è qua, noi siamo un'altra cosa. Infatti, invece? noi siamo un'altra cosa, noi non vogliamo stare col centrodestra, non vogliamo stare con Berlusconi, noi vogliamo uscire dall'euro, uscire dall'Europa. Per cui vi presentate alle elezioni a tutti quelli del Partito Popolare Europeo. Come? Dunque va a fanculo a tutti quelli del Partito Ma anche Popolare. a Salvini. Salvini faccia quello che vuole, ragazzi. Scusate se mi sono inalberato, ma a me questa spocchia del centrodestra nei confronti di tutti, soprattutto nostra, veramente mi destabilizza, perché sono insopportabili, capito? Nel loro non fare nulla, nel loro già aver amministrato questa città e non aver ottenuto mai un risultato, nei loro governi patetici che non risolvono mai un un problema e poi si presentano alle elezioni in televisione, vabbè, dicendo faremo questo, faremo quell'altro, alzeremo le pensioni a 1.000 euro e poi regolarmente non fanno nulla. Ho capito, ma hai detto qualcosa al tuo Marcella su questa amicizia con Coso? Hai detto qualcosa di chiudere questo rapporto? Ragazzi, però vabbè, non è uno, sì, può essere amico quando uno fa è politica. È una domanda normale. Quando uno fa, sai, scusami Simone, però quando uno fa politica anche le apparenze contano. Io non so che cosa c'è, i rapporti a che punto siano, perché non è che faccio l'indagatore dei rapporti. Ma non lo so neanche io, non lo so nessuno. Beh, ho capito, amico mio, però i rapporti contano quando uno fa politica. Si sono conosciuti e si dicono ciao, come lo dicono a 1.000 persone. È inutile che cerchi di andare per Ostia a cercare qualcuno che non conosce Roberto Spada, lo conoscono tutti. Beh, adesso fa tutti, ecco, tutti. Pubblici, ma in Sicilia queste domande pubblici si fanno normalmente di Stefano ai politici. Ma i partigiani lo conoscono tutti. Ma che c'entrano i partigiani, capito? Però? Ma anche tu hai fatto, scusami, anche tu hai fatto sempre le battaglie contro i politici mafiosi, i politici collusi con, certo, questo e con quell'altro. Spesso basta una foto per inchiodare le persone. Adesso ci sono volantini, ci sono delle cose in comune, ci sono dei messaggi in comune tra il tuo candidato e uno che appartiene ad una famiglia di criminali. Qualche spiegazione in più bisogna dare dal punto di vista politico, altrimenti cioè oltre che dire che non abbiamo nessun rapporto, questo non è uno bla bla bla. Oggi ho chiesto a Minniti in conferenza stampa, chiesto io a Minniti di aprire un'indagine, di dimostrarci immediatamente per favore se esiste un rapporto di voto di scambio tra noi e come fa Spada, a saperlo? Come fa a saperlo? Questo lo dirà la magistratura, semmai, come si fa? Non è che Minniti ha potere, però che Minniti ha potere di polizia, con l'aria fritta, le carte. Senti, capito, come consideri la giornalista di Repubblica Angeli, che invece è convinta del vostro rapporto stretto? No, convinta, con gli Spada, quello che abbiamo detto. Signora Angeli è stata una delle più grandi sostenitrici del presidente condannato nel processo Mafia Capitale Tassone a 5 anni per corruzione. Lei sostenitrice, che vuol dire? Quest'uomo, quest'onella, tua onestà, la tua pulizia. Vabbè, si sarà sbagliata, magari. Poi c'entra questo con le minacce. Ma ha ricevuto le minacce. Non ti vai a fidare di uno che poi finisce condannato per mafia capitale. Che stranamente però vive sotto scorta da anni, scusami. È costretta a vivere sotto scorta perché? Non è che se uno sta sotto scorta diventa infallibile, come Staviano. No, ho capito, ma è stata minacciata dai clan, la sua vita è in pericolo, però vive lì, vive lì e la sua vita è in pericolo. Secondo te è in pericolo? Ma i fatti vanno dimostrati, il giornalismo non deve fare l'azione, deve portare i fatti. Allora portatemi un fatto, una carta, un documento, qualcosa che... Cioè, voi non avete nessun legame. Voi non avete nessun legame con gli Spada. Non abbiamo nessun legame con gli Spada. Ci può essere un'amicizia personale di Luca Marcella perché si sono conosciuti in piazza. Sbagliata, secondo me, sbagliata, capito? Sbagliata, politicamente sbagliata. Sbagliatissima, quello che vuoi. Però tu non sei cresciuto in un quartiere, Giuseppe. Ma che c'entra? Ma non è che bisogna. Questa cosa è interessante, però guarda, questo è curioso. Scusami, Simone, però abbiamo un approccio. Ma non è necessario per fare politica questo vostro approccio. Ma per fare politica non c'è bisogno per forza di rapporti con gli Spada. Perché sennò sarebbe finita, questo sarebbe tutto finito. Proprio uno della destra lo dice, che di solito hanno altre tradizioni, no? Cioè, come no? Il valore, il distinguersi, il rispetto, il combattere la criminalità organizzata. Beh, quella roba lì è nei valori della destra. Io mi ricordo era Borsellino, una roba molto forte. Vabbè, appunto. La criminalità organizzata deve combattere lo Stato, le magistrature e la polizia. Vabbè, no? La politica non deve avvicinarsi ai criminali, però, questo è il punto. Vabbè, ciao Simone, grazie, okay. Grazie. A stasera. Alessandro da Bari, vai Alessandro. Oh. Buonasera, niente. Dimmi. Condivideva innanzitutto tutto quello che ha detto adesso Simone. Poi Simone Di Stefano, stavamo parlando con uno dei dirigenti, forse il numero uno di Casa Pound, non so sì, bene. Sì, assolutamente, vicepresidente. Assolutamente. Cioè, condividevi tutto tu? Sì, quello che dice assolutamente sì. E innanzitutto poi anche il giornalista è andato a sfruculiare la Mazzarella, un personaggio. Ma sfrucugliare, a fare delle domande, la vogliamo smettere con sta roba? È andato a fare delle domande. Ma dai, che dice sfrucugliare? Che vuol dire? Ha fatto delle domande, deve finire sta storia. Perdona, come fa a dire? Lei può avere tutte le opinioni che vuole, può anche pensarla come Di Stefano e io per questo non la criminalizzo. Ma non può dire. No, non la criminalizzo per questo, per me. Che se ne dica, io rispetto le idee degli altri, anche le più diverse dalle mie, poi posso combattere in modo un po' vivace, come deve essere, per le mie idee. Quindi su quel piano lì, d'accordo, ma non può dire che è andato a sfrucugliare e quindi si ha fatto bene a meritarsi la testata, perché un giornalista perché deve sfrucugliare, deve mettere in fammi capire perché, fammi capire perché, Alessandro, dimmi. Scusami, per quanto può essere anomalo e particolare, se tu vai a fare un'intervista del genere a un magistrato, come minimo ti aspetti una querela da una persona che è nata e cresciuta in mezzo alla strada, in quelle realtà, cioè prenderti un pugno, una testata, non giustifico il gesto, attenzione, ma è il minimo che puoi aspettarti, cioè attenzione. Cioè non ti puoi aspettare certo, ma denunci in carta da bollo, ma un pugno, uno schiaffo, una cosa del genere te la devi aspettare. Ho capito. Anche se uno, scusa, anche se uno ma se l'aspetta, e allora anche se uno dice, vabbè, metto nel conto che questo è un violento e magari mi dà un pugno, ma cosa vuol dire questo? Scusa, non ho capito, che se l'è andato a cercare? Che lo voleva? Come ha detto un avvocato prima che insistendo a quella maniera, cioè, ma insistendo a quella maniera cosa? Ma ragazzi, sono quattro domande. Se uno non vuole rispondere, ti dice vai a fare in culo. Tra l'altro, ti voglio più volte gli ha detto, no, non leggo i giornali, non me ne frega niente. E va bene, d'accordo, ma scusa, ma se voleva, se ne andava, si chiudeva dentro una stanza. Se uno non vuole stare lì, ripreso dalle telecamere per esibizionismo, anche perché questa gente è anche esibizionista. Allora, questo, diciamo la verità, se non vuoi essere ripreso dalle telecamere, te ne vai, ti chiudi, e non è che la gente entra con i carri armati. Ma ho capito, ma non stava a casa sua, stava in un luogo aperto, dai, su. Guarda che stava sulla porta di casa sua. Poteva rientrare. Poteva rientrare, chiudere. Scusami Alessandro, però quello non è uno che è andato lì assaltando la proprietà privata e invadendo uno spazio, eccetera. Stava lì a fare delle domande. Se uno non vuole rispondere, si chiude dentro casa. Ma ha abbassato la testa più volte, ha detto non leggo, non mi interessa. Ma ho capito, ma cosa vuol dire? Ma ragazzi, ma siete impazziti? Siete diventati matti stasera? Cioè, il punto non è quello. Ma io, per carità, ti faccio intervenire perché è interessante questa cosa qua. Sì, è interessante, ma è incredibile. Scusami, Alessandro, però vi piacciono. Fammi capire. Quindi, se un giornalista insiste troppo e fa troppe domande, è giusto in dare alcuni una testata. Contesti è giusto che riceva la testata. Giusto, fammi capire. No, attenzione. Allora, non è allora giusto alzare le mani. Io ho detto questo è un gesto. Devi mettere in conto che se vai da un magistrato a fare un'intervista del genere, ti querella, ti denuncia, ti dà fastidio in marche da bollo o carta scritta. Ma chi? Giusto? Ma non è vero. Ma non è vero, perché? Ma sì, dai, se vai a fare una cosa del genere con una persona di un'estrazione sociale differente, magari ti va a querelare, denunciare, diciamo, ma non è vero, ci sono una marea di, scusa, vi piacciono tanto le interviste delle Iene con le telecamere nascoste, vi piacciono tanto e piacciono anche a me ovviamente, le interviste punto. Delle che Iene invadono, che inseguono i politici, l'inseguimento dei politici vi piacciono, no, perché poi siete, io personalmente vabbè tu personalmente no, moltissime persone adesso invece, siccome uno ha dato un pugno, siete dalla parte di quello che ha dato il pugno, io veramente abbastanza incredibile, Lores Vicenza, ciao Alessandro, ho capito, dici che però lo deve mettere in conto. Ho capito, ma che vuol dire lo deve mettere in conto? Lores, che c'è? Che novità? Lores, dimmi, cara. Lores? Che dimmi, ciao. Che è successo? Tu. Però aspetta, dimmi cosa, hai chiamato tu, dimmi Lores, dimmi. Chi sei? Sono Cruciani, dimmi. Sì, ciao, bello, senti. Dimmi, ho ascoltato la telefonata, no, l'ultima adesso, che la penultima. Quando la Melba gli diceva che non dovrebbero più andare dentro bambini in quella chi palestra. È la Melma, scusa, voglio per capire allora, chi è la Melma? Tu perché quegli esseri schifosi mafiosi di politici vanno dentro ogni giorno al Parlamento? Ma dovremmo lasciarli entrare? Ma dove? Nel tempio che dovrebbe essere della democrazia, dentro i mafiosi ogni giorno. Ma delira, però, a te non ti interessa, però, perché sei per il Veneto, che ti interessa del Parlamento italiano? Stamattina, in Italia è qua che ti invade. Scusa, è colpa sua di loro che siamo messi così. Invade, aspetta un attimo. Ti ho chiamato per questo. Sì, prendi il farmaco prima, però, magari che riminuisci le cazzate. Prendi il farmaco. Il coniglio c'era è Renzi. Nel DNA. Perché non solo i Parenzoli, la Checchetta, ha paura. Ma Renzi, che aveva annunciato durante la campagna elettorale 4 anni fa, il popolo sarà la mia scorta, c'erano 300 poliziotti, carabinieri e non ti dico cosa. Presidente, è scappato! Il delinquente scusa. Ma perché delinquente? Spiegami perché delinquente, Renzi, scusa. Qualcuno denuncerà, spero. Sì, l'Ebete Fiorentino, sì. Ma ho capito, Ebete Fiorentino ci può anche stare perché come dire, delinquente, è un'invettiva, sai, d'accordo. Delinquente, io ma delinquente, segnalo tutto al portavoce. 400.000 euro ci stanno costando le vite dell'Ebete Fiorentino. Ma cosa dici? No, le spese del treno. Lui dovrebbe incontrare il popolo e invece lui sfugge dal popolo. Vabbè, adesso quello... come un coniglio. Ma cosa, lei tutto il giorno cosa fa questa qua? Dimmi, tutto il giorno. 7 carrozzoni ci sono. Ma lei tutto il giorno cosa fa però esattamente? Sono curioso. 50 accreditati alla stampa. Sì. Vabbè, avevano la lingua morrone che puzzava di merda. Hanno leccato fine, il culo però. A Renzi tutto il viaggio sempre, da Treviso, da Mestre a Vicenza. Che ne sa? Che ne sa lei? Capito? Tutto il giorno cosa fa però lei? Io voglio fare una giornata con la Lores. Cosa no, fa sta no, qua culione, tutto il no. giorno? No, sta qua tutto il giorno. Guarda, cosa fa questa tutto il giorno? L'inferno ma no, il Parenzo, per l'amor di Dio. Ma tutto il giorno lei di chi si occupa? Di quali attività si occupa? Cari durante mie, il dì, dalle 7 del mattino alle 20. Ma sei pensionata? Sei pensionata? Mi sono pagata tutto, hai ma capito? Sei pensionata, Lores? Ah, sei pensionata? Sei stato italiano? Vergogna. Sei pensionata o no? Vergogna. No, prendo la pensione perché sono vedova. Ah, dallo Stato italiano però. Eh sì, dallo Stato italiano. Ma dallo Stato italiano. Di merda che mio dallo marito Stato italiano. Per lo Stato italiano. Dallo Stato italiano. Prendi i soldi dallo Stato italiano. Ecco un'altra erede del generale Pappalardo. Sputa sullo Stato italiano e prende i soldi. Smascherata la Lores. L'abbiamo smascherata. L'abbiamo smascherata. Sputi sullo Stato italiano e prendi i soldi dallo Stato italiano. Vergogna. Ma vergogna. Soldi dello Stato italiano. Soldi dello Stato italiano. Dovresti rinunciare a quei soldi. Rinuncia a quei soldi, indipendenti. Se non mi fai parlare, quella merda lì, metto indipendentista giù, lei è indipendentista, però per i soldi dallo Stato invasore italiano li prende ogni mese. Sono arriva la cedolina, la cedolina merda, arriva bastardo, la cedolina con sopra scritto impese. Allora fermi Don tutto. Maiale schifoso. Però sono soldi comunque che vengono dall'organizzazione italiana dello Stato. Certo. Ma che cazzo dici? Perché non me li hanno lasciati? Scusa, ma tu ti rendi conto? Ecco, per chi ha lavorato? Per chi ha lavorato? Lo Stato italiano, uno Stato di ladri, secondo te, uno Stato di ladri? Lo Stato italiano è uno Stato di mafia e merda, va bene? Benissimo, benissimo. Scusami, lo Stato italiano è uno Stato di mafia e merda. Pure. Mafia e merda, mafia e merda. Però lo Stato italiano ti consente anche di campare a Vicenza, o dove campi, o dove vivi, con le strade organizzate. Dio non voglia che debba andare in ospedale, qualcuno pagherà i servizi sanitari della signora Lores. Se noi paghiamo i nostri 20 miliardi all'anno di residuo fiscale, avremmo le strade come si deve, le scuole come si deve, invece, gli ospedali come si deve. Guarda, ci sono un sacco di le case come si deve. Ci sono un sacco di gente del sud incazzata per il tuo intervento dell'altra volta. Hai dimenticato ma i sardi? Là, ho sbagliato. I siciliani come li consideri adesso dopo che non hanno votato? Sono africani, sono italiani, basta. Sì, va bene. Lores, ciao, ciao amico mio. Ciao, notte. Ecco, va a dormire. Oggi sarò qui. No. A Montecitorio. Se tu ci avete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, migliore. Vergogna. E io vado con la donna di vostri imputi. Se tu ci. Ho strappato lì la zanzara. Minchia Cruciani, sei proprio un coglione, cazzo Cruciani. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta la zanzara. Cirostrada è un grandissimo cornuto. Capito bene, la corte è palermitano, minchia alla grande, quale piacere, la corte alla grande, palermitano, forza Palermo e Santa Rosalia e forza 5 XL, grande la corte, alla faccia di Parenzo, quel cornutazzo indegno nano maledetto. Giuseppe, tu con chi stai, con me la corte o con quel fango di Parenzo? Ti devi schierare, Giuseppe, schierati. Adesso questo signore ha attribuito alla corte un'appartenenza ai Five Stars, che probabilmente, non so, non sarà vera. E io mi dovrei schierare tra te e questa presunta alleanza tra il grillino palermitano e il signor La Corte. Signor La Corte. Questo è. È il solito grillino palermitano. Sì, il solito grillino palermitano. Allora, diciamo un elettore dei 5 Stelle. Elettore dei 5 Stelle. Tifoso dei 5 Stelle di Palermo. Abbastanza. Stefano da Roma. Con argomenti anche solidi. Vai, Stefano. Posso intervenire? Dimmi, Stefano, dimmi. No, volevo solo far presente che quella famiglia, quale famiglia di cui sopra, quale sopra? Spada? Bravo. Sì. Non è che i soldi li fa con la palestra o dando capocciate, li fa spacciando eroina. E questo lo sanno tutti, carabinieri, polizia, tutti quanti. Sì. E questa volta Casa Pound ha proprio toppato, perché non mi pare che tra gli ideali della destra sociale ci sia anche questo, mettersi a braccetto con gli spacciatori. Scusami, come fai a saperlo? Perché tu mi chiedi come faccio a saperlo, indovina un po'. Non lo so, dimmelo tu. Abbi pazienza, faccio appello alla tua intelligenza, come cazzo faccio a saperlo? Non perché l'ho letto sul giornale. Cioè, nel senso che, non ho capito, hai comprato eroina da... È chiaro. Cioè, non ho capito, da chi hai comprato eroina? Direttamente da... No, Stefano, scusa, tu sei un consumatore di eroina? Sì. Cioè, sei eroinomane? No, mica... Per capire. Insomma, no, eroinomane è un po' troppo, però... Cioè, fai uso di eroina in maniera sistematica? Saltuaria. Saltuaria, beh, per carità, beato te che riesci a consumarla in maniera saltuaria. Di solito si diventa. Esiste anche un modo sociale di fare uso, come dell'alcol. Beh, insomma, adesso non paragoniamo l'alcol all'eroina. Cioè, dico beato te, non perché. Ma conto dei morti, vedrai quanti ne vogliono di alcol e quanti ne vogliono di eroina. È un discorso ampio. Diciamo che è più facile uscire dall'alcol che non dall'eroina, magari. È più facile morire di alcol che di eroina. No, è più facile morire di eroina che di alcol. Direi. Ah no, amico mio, non sei informato. Vabbè, comunque però, mi pare una discussione. No, la discussione importante è un'altra. Tu mi stai dicendo che evidentemente abiti a Ostia, immagino, o sbaglio? Ah, sono cazzi miei dove abito. Sono cazzi tuoi, d'accordo, non me lo vuoi dire. Vabbè. Però hai detto una cosa, che hai comprato eroina dagli Spada. Sì, tanto ormai te l'ho detto. Sì, ho capito. Comprare eroina dagli Spada cosa significa concretamente? Cioè, adesso magari non vuoi entrare. Prendere i soldi e mettergli in mano. Ma chi? A questo di cui stiamo parlando? A Roberto Spada o ad altre persone? No. A persone che fanno riferimento agli Spada? A Ostia? Che portano lo stesso cognome, mettiamola così. Insomma. Che portano, mettiamola così, hai detto una cosa concreta, che portano lo stesso cognome. Dunque, tu stai dicendo una cosa che è abbastanza chiara da... È arcinota! Cioè, mi meraviglio che non ci sia nessun poliziotto che telefona. Ma mi meraviglio. Cioè, no, veramente. I poliziotti non è che chiamano nelle trasmissioni per raccontare le cose. Ah, diciamo. No, che fanno? Ma non chiamano nelle trasmissioni, scusami. Lavorano 24 ore su 24, cioè che fanno? Scusami Stefano, però non è che i poliziotti chiamano una trasmissione, i poliziotti agiscono e di solito agiscono per fermare i reati o cose di questo tipo, non è che chiamano le trasmissioni per raccontare quello che fanno, casomai siamo noi a chiamarli e di solito non è facile ottenere la testa. Una telefonatina, va, chiedete, vi risulta? No, ma risulta che le attività degli Spada a Ostia, perché è scritto nelle indagini eccetera, non siano delle attività, come dire, hanno delle attività lecite e poi anche delle attività illecite, tra queste anche lo spaccio, non c'è dubbio, però la tua non ho detto niente di nuovo. No, però no, mi hai detto qualcosa di nuovo perché mi stai dicendo non una cosa. Detto, ma è una cosa non è nuova. Ho capito Stefano, però tu stai dicendo io sono un consumatore saltuario di eroina, il che già mi sorprende, nel senso che sono guarda, esiste anche quello, perché sono cambiate le cose, insomma, dagli anni 70-80. Non c'è dubbio, però sono quasi contento per te perché ci arriva 80 anni, insomma. Non facciamo qui l'elogio però dell'eroina. Stefano, sembra quasi che stiamo. Non è un elogio, ho capito. Ci sono cose più pericolose, insomma. Beh, no, cioè, cose più pericolose, non so quali possano essere. Che cosa è più pericoloso dell'eroina oggi? Per un ragazzo, non è che. Guidare ubriaco, per esempio. Ma guidare ubriaco, non mi pare. Guidare ubriaco è più pericoloso, ti assicuro. Ti assicuro che è molto più pericoloso. Stefano, però, io sono contento perché tu non sei. Sembri non essere schiavo dell'eroina quotidiana. Questo è il punto. Io ho avuto la mia vita tranquilla. E quante volte ti fai, scusa? Questi sono ragazzi miei, ma stai qui, te lo domando. Mi sta facendo delle domande che possono fare in modo che questi mi dividano. No, altro che carrocciata. Cioè, scusami. Io non è che ci devo la rivolta alla tasca, No, per carità, cioè, ma che una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, che ne so, c'è cioè, un uso saltuario. Sì. Una volta a settimana, e riesci a non farti tutti i giorni, cioè non sei caduto nella spirale. Non vai a rota, c'è un attimo di cervello, ce la fa, cioè non è impossibile mettere prima te stessi e poi la sostanza. Non lo consigliamo a nessuno. Prima la sostanza, hai chiuso, insomma. Ma ti fai in endovene, cioè con la siringa? No. La tiri? Mai utilizzato in quel modo. La fumi o la tiri? Tiro. la tiri, vabbè, e la compri dagli Spada, vabbè, d'accordo, ma questo, questo significa, tu questo hai chiamato, questo negativo significa, però non ce la faccio più a sentire queste cazzate, capisci? Non ce la fai più a sentire che a quelli... sentire queste stronzate, la gente che per 4 voti in più si è messa sotto braccio, sa, insomma, a chi sappiamo. Cioè, a spacciatori di droga, insomma, a spacciatori di droga. No, di... io ce l'ho con i Casa Round, non con gli spacciatori, con i mestiere. Che c'è della Casa Pound? No, lui dice una cosa che è giusta. Lui dice: ce l'ha con Casa Pound, che sanno benissimo, secondo quello che ci racconta. Ma che... certo che lo sanno. Sanno benissimo che questi qua sono anche. Però, qui. Siccome i voti non ho come i soldi, come la pecunia, allora. Sì. Va bene Stefano, grazie, ciao, ciao. Grazie, speriamo bene, ciao. No, non ti preoccupare, qui ciao. Se ci sono problemi chiamaci e facciamo, come dire, facciamo intervenire chi di te. No, perché adesso lui dice ho paura dopo quello che ho detto. È chiaro che ho anche un po' di paura, però tanta lega la rabbia perché state parlando di aria fritta. Va bene quello che va bene. Noi dobbiamo fidarci di un signore che chiama e che giustamente, grazie per averlo fatto, che lascia però per spiegare a chi ci ascolta il numero di telefono. Che ci racconta, no, lo dico per dire che dobbiamo, non abbiamo elementi qui, siamo qui, che elementi abbiamo per verificare e sarà che la sua storia è vera? Ho telefonato al comando di polizia di Ossia. Lo confermeranno tranquillamente. Non no, cosa, però la sua testimonianza lì è importante perché ci dice: non date retta, almeno la posso riassumere. Non date retta a quelli che vi dicono e vi raccontano le palestre, eccetera. C'è, diciamo, il vero volto degli Spada Ostia e quello dello spaccio, tra le altre cose, giusto? Vabbè, questo che Stefano, ci sia lo spaccio, si sa. No, però lui dice di comprare l'eroina di cui fa uso dagli Spada. Questo è il punto fondamentale. Stefano, okay. se ci sono problemi. Il telefono ma è questo? Lo sto dicendo anche perché così spero di farla finita, capisci qual è il discorso? Con l'eroina? Certo, perché se torna lì non vorrei che poi, capisci? Sì, però Stefano, qualcuno, ripeto, se ci sono... di chi si tratta, ma non me la cavo con una capocciata, capisci qual è il discorso? No, se ci sono problemi il numero di telefono è questo, mi raccomando, noi possiamo attivare polizia, carabinieri, tutto quello che ti pare. Ciao, ciao. Guarda, non ci fanno niente. Beh, non ci fanno niente, perché sono pappe e ciccia, per cui non fanno niente. Ah, sono pappe e ciccia con gli Spada, dice. Su questo mi sembra una stronzata. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da su piazzaitalia.it. Acquista comodamente online tutta la moda che vuoi. La Zanzara. Il mio sogno è incontrare Sgarbi, il professorone, e sputargli in faccia. Cruciani, va bene, sei talmente libero che puoi anche leccare il culo a Sgarbi, benissimo. Ma allora perché non lo contraddici? Perché non lo contraddici quando quel coglione dice che candiderebbe anche qualcuno in odore di mafia? Perché non gli dici che è un coglione? Perché non glielo dici? Devi avere il coraggio di dirglielo, perché allora non puoi fare poi il paladino della legalità quando chiami le persone a Corleone dicendo loro di gridare che la mafia è una merda. Fai tu il primo passo, di tu che la mafia è una merda, dillo a Sgarbi che vuole candidare, che è d'accordo con le persone che si candidano in odori di mafia. Vai a dirlo al tuo paladino a cui lecchi il culo, a lì, al tipo che potrebbe fare la guida nei musei, al sindaco di un comune sciolto per mafia. Mi fai parlare, porca puttana, vuoi farmi parlare? Allora ragazzi, sono ancora particolarmente colpito, caro David, da quello che è successo prima, cioè dall'intervento dell'ascoltatore di prima da Roma. All'erenomane. Sì, eroenomane, insomma. Presunto eroenomane. E che, come si chiama? Tutto presunto, naturalmente, perché no, non è che abbiamo le prove, i certificati medici dell'eroina. Come si chiama criminale il signor Spada? Cioè, ma i nomi bisogna darli. Bisogna, ma no, l'eroinomane, che vuol dire l'eroinomane? Oh, un signore che fa uso di... Eroinomane. Ma no, vabbè, ho capito, ma sembra che lo bolli l'eroinomane. Il signore degli Spada? Criminale, come lo vuoi chiamare? Ma che c'entra, chiamare... sono due cose diverse, dai, su. I nomi alle cose, vanno dati i nomi alle cose. Vabbè, allora, Luca da Roma, ripeto, quel signore di prima ci ha raccontato che compra la droga dagli Spada. Ost. Perché è malambiente. Luca da Roma, vai, Luca da Roma, sì, poi andiamo a rompere i coglioni al prete, dai. Allora, volevo chiedere una cosa, volevo sapere una cosa. Allora, questa persona ha chiamato denunciando il fatto che gli Spada lo rivendono eroina, denunciandolo con la sua stessa voce, quindi non una voce nascosta come si fanno alle Iene o in altre trasmissioni. Allora le cose sono due: o questo è un pazzo, o voi, o questa è una telefonata finta, ditemi voi. No, allora Luca, le cose sono molto semplici. Anche se uno chiama dicendo una cazzata del genere, i signori Spada, non so chi esattamente, ti possono fare un culo così. Per cui le famose telefonate finte di cui parlate voi, i fake, in realtà non esistono, perché quando tu dici una cosa grave esistono quelli che si fingono. E quindi questo stava fatto come una pigna quando chiamavano. Non mi pareva fatto. Questo qua ha raccontato. Ci sono ogni tanto delle persone che si vogliono liberare, come lui ha detto alla fine della telefonata, si vogliono liberare di qualche cosa. Questo però qua evidentemente tra mezz'ora chiama e prende un grammo. Vabbè, ho capito, ragazzi, ma è quello cazzi vuoi. Magari chiama uno di quelli, dice ora quello ha chiamato, poi gli fanno il culo e tutto a posto. Non è così. Luca, qual è il punto fondamentale? Non capisco. Il punto fondamentale è: com'è possibile che una persona chiami denunciando una cosa simile, sapendo quello che, il rischio che corre per fare una chiamata? Succede ogni tanto. Non è che tutto quanto è nascosto, è tutto un imbroglio, eccetera, eccetera. Succede ogni tanto che chiama una persona, racconta una cosa vera, e in questo caso, secondo me, devo dirti la verità, io sai che ho una certa esperienza dal punto di vista delle telefonate, spesso pizzichiamo. Certo. I fake o quelli che fanno gli spiritosi o quelli che si fingono, li annusiamo proprio, li annusiamo. Sentiamo in questo distanza. Caso francamente mi sembrava una telefonata, a me sembrava perfetta, però il problema è sono le conseguenze che ho capito, questo è fuori di testa. Sarà tutto fuori qua. Di testa, però mi sembrava una telefonata da approfondire, diciamo così, sincera, da approfondire. Cioè di uno che dice guardate che non è la palestra, è questo, è l'eroina, cioè questo è il punto fondamentale. Certo. Io inizialmente pensavo che fosse state voi a avere qualche magheggio là, magheggio per avere persone che chiamano a dire noi non cose. Facciamo mai, ragazzi, voi non avete capito bene, adesso te lo spiego anche a te Luca, che mi sembra una persona che ragiona. Il punto fondamentale è uno: questa trasmissione, non so perché c'è accanto Parenzo, ho detto questa televisione. Questa trasmissione è la trasmissione forse più aperta che c'è nel mondo della radio. Aperto, perché la realtà è che non c'è controllo su queste cose qua. Sì, no, cioè, senza controllo sanitario, lo dice anche. Cioè, chiamano le persone e raccontano quello che vogliono raccontare. Spesso è anche uno sfogatoio, è anche un confessionale, no, Luca? Succede qualche volta. È anche un letamaio, possiamo dirlo, no? Ma tu lo chiami letamaio, io lo chiamo Radio Verità. Anche Luca ha chiamato, ha il suo accento, bel accento romano, dice un drogato non chiamerebbe mai in radio per dire certe cose. Non è detto, parla esattamente come parlerebbe con una persona al bar, come parlerebbe con una persona, no, giusto Luca, come lui parla. La differenza è che dopo questo passa dei problemi. Certo, non lo so, quello però io infatti mi sono accorto di questa cosa qua, gli ho detto guarda, se hai dei problemi poi se ti vengono a rompere il cazzo chiama, e tu che chiami. Che fai? Abbiamo le nostre connections, come dire, abbiamo i nostri legami, abbiamo le nostre conoscenze, poche ma ce l'abbiamo, anche come dire, anche a livello di forze di polizia, rapporti con le istituzioni, rapporti molto solidi, avendo questa trasmissione, avendo noi almeno io personalmente sempre difeso le forze dell'ordine in tantissime occasioni, in tanti tu bisogna vedere, ma cosa dici, tu bisogna vedere. Ma che scherzo. Ciao Luca, ciao, un abbraccio, ciao. Allora ragazzi, cosa è successo oggi? Il coglione del giorno, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, ormai praticamente 2 ore fa, sono passate molto velocemente queste 2 ore, caro Davide. Sì. Si chiama Don Lorenzo Guidotti. Voglio riassumere per quelli che non avessero ascoltato o non sapessero di questa storia. Questo prete a Bologna sostanzialmente cosa ha detto? Di fronte ad una violenza sessuale subita da una ragazza ha detto: ti sballi e dovrei provare pietà? Questo ha detto in pratica. Sei andata con un magrebino. Dopo la cavolata di ubriacarti, con chi ti allontani? Con un magrebino? Chiamiamo questo Vittorio, mi stai chiamando? Lo so che mi stai chiamando per quel messaggio, sì. Per il messaggio dell'ascoltatore, che è un cretino e che si rivolgeva soprattutto a me dicendo che ti lecco il culo. Non ha capito nemmeno il mio scherzo dell'altro giorno. Adesso ti richiamo subito. Fammi chiamare questo prete e poi ti richiamo. Un attimo. Pronto, parrocchia di San Domenico Savio. Salve, cercavo Don Lorenzo, buonasera. Non c'è, con chi parlo? Mi chiamo Giuseppe, salve, buonasera. Sì, non c'è il parroco, non so se rientra. Non è ancora arrivato, no, volevo chiedergli una cosa, lo conosco da un po' di tempo. Perché io ho un suo numero di telefono, un vecchio cellulare, non so se sia sempre ma valido. Non risponde, se di che è impegnato a qualche parte, perché ho provato a cercare. È arrivato adesso. Perché cos'era, chiedeva Don Lorenzo, perché è di corsa? Sì. Se me lo può passare io glielo chiedo io direttamente, mi farebbe piacere. È un po' delicato. Pronto? Don Lorenzo? Sì. Buonasera, sono Giuseppe, ci siamo conosciuti tempo fa quando lavoravo a Bologna. Sì. Salve, buonasera. No, niente, io adesso faccio un altro mestiere. Le volevo chiedere di questa cosa. Sì, faccio il giornalista, salve. Allora, io le chiedo scusa, ma non posso più rilasciare l'intervista, proprio non lo No, ma fare. Che cosa è successo? Come le è venuto in mente di scrivere quella cosa? Ribadisco il concetto, provo pietà per questa ragazza, certo che provo pietà, chi è che non proverebbe pietà? Ho sbagliato i modi, i termini, tutto nel postare quella cosa. Qual era il mio obiettivo? Colpire la cultura dello sballo. Ce l'ho fatta? Sì. No, ho sbagliato completamente, ho aggiunto dolore a dolore, se domani questa qui leggerà anche le mie dichiarazioni, i suoi genitori, eccetera. No, perché lei ha detto di non provare pietà, lei ha scritto che io non provo pietà. Ho capito, ma secondo lei non provo pietà per quella ragazza? L'ha scritto lei, però evidentemente ci ha ripensato. Cioè, no, lei lo ha scritto. Ma ci mancherebbe, ma secondo lei non provo pietà per una ragazza violentata, ma sta scherzando. Ma allora perché l'ha scritto? Perché stavo cercando di attaccare la cultura dello sballo. E quello d'accordo, uno può anche attaccare la cultura dello sballo, va benissimo. Io so benissimo che in questo momento sono in... No, io voglio semplicemente che lei spieghi. Il vescovo, mi ha chiesto di non fare più interviste. No, d'accordo, Don Lorenzo, mi scusi, è spiegare è importante. Perché, allora... spiegare. Chi è che non proverebbe pietà per questa ragazza? Ma lei. Ho capito, ma è lei che l'ha scritto, non l'abbiamo scritto noi. Cioè, allora, lei ha detto che era in preda a un momento di... Ok. Che se momento era quello? Nulla, se non avessi scritto nulla, avessi detto ho pietà per questa ragazza ed era già, penso, almeno il nono caso di stupro, il settimo, nel giro di pochi giorni. E cosa faccio? Lo posto domani, posto di nuovo, provo pietà per questa ragazza, provo pietà per questa ragazza. A un certo punto ho detto basta, non provo pietà. Ma in quel momento lì... Non provo pietà per questa ragazza, ma perché dobbiamo fare qualcosa? Cioè, prova pietà o non prova pietà? Questa è la domanda finale, perché su questo bisogna intendere. Pietà. Chi è che non potrebbe provare pietà? In quel momento, ragazza? Quando ha scritto che non prova pietà, che cosa è stato preso provare da un raptus? Anche in quel momento, ma stai scherzando? Come fa a non provare pietà per una ragazza stuprata? Lo so, ho capito, ma quello se lo domandi lei però, perché io provo pietà, certamente, ma quello se lo deve domandare lei alla sua... L'errore mio è stato invece di scrivere che non provo pietà, ma è stato un errore. Ma non è che l'errore mio non provare pietà, è che ho scritto che non provo pietà, questo è il mio errore. Ma scusi, allora c'è un momento in cui uno pensa una cosa ma ne scrive un'altra, come se fosse... Se lei vuol fare poi polemiche inutili, eccetera, no, qui c'è ma un è una polemica. Quello dei ragazzi giovani, se voi volete aiutare con la vostra radio ad aiutare i ragazzi a non cadere nella cultura dello sballo, bene. Aiutiamoli, chiudo qui. Aiutiamoli, no, Don Lorenzo, aiutiamoli. Allora, mi chiamate Vittorio? Chiamatemi Vittorio un attimo, che mi ha chiamato prima il mio numero. Ecco, Vittorio, ci sei, dai. Vittorio. Oh, sì. Pronto. Dimmi, Vittorio, che volevi dire? Dimmi. Volevo dire che siamo di fronte al delirio nelle considerazioni che fai passare registrate, perché io... Non ho mai difeso la mafia, sono il solo che l'ha attaccata, ma la mafia va colpita dov'è? La mafia è la distruzione del paesaggio, nelle multinazionali dell'eolico, e non è certamente nell'accusa che viene fatta per abbavolare teorie di magistrati. Lo scioglimento di Salemi, che diceva quel povero cretino, è un scioglimento totalmente ingiusto senza un solo indagato. Questa è la misura criminale. È che le persone si attaccano al formalismo delle cose. Spesso le cose... Se c'è un'indagine per mafia, c'è anche un processo per mafia. Invece stanno scioglimenti intimidatori alla Alfano, che ha una dimensione mafiosa della testa, per dire io sono contro l'antimafia, sciolgo Corleone, quando? 30 anni dopo che non c'è Pirina. Sciolgo Salemi, 30 anni dopo. Non possono mandare le leggi di garanzia al cimitero. Questo scusa, che ma l'arresto di quel tizio là... Ma quello è un comico, quello è uno tipo Parenzo, è un comico, può fare evasione fiscale, ma è personaggio. Cioè, secondo te è uno perseguitato? O perseguitato, no, dai magistrati? È indagato da gennaio, avrebbe dovuto arrestarlo... No, da 14 anni. No, l'indagine è un'indagine precisa per evasione fiscale. Sì, da dimostrare che non prevede l'arresto. Lo arrestano il giorno dopo l'elezione... per mascariare, tipica cosa, Musumeci, presidente dell'antimafia, che è diventato presidente della regione. E tu hai fatto un comizio pure con lui, hai fatto, no? Sì, no, con lui ho fatto una cosa 3-4 anni fa, ma è un ragazzotto comico, cioè Beh, ho capito, questo ciò non toglie che magari possa avere Ma quella è un'indagine che, come tanti hanno, non deve culminare in un arresto. Dopo, questo non c'entra. Cioè, tu dici, questo Cateno De Luca è stato arrestato apposta dai magistrati per metterlo in culo a Musumeci. Vedi gli impresentabili, li vedi, è tutto qua. È una cosa di propaganda. La Sicilia è vittima della propaganda, per cui non della bellezza, di cui io parlerò, ma della mafia solo si parla. Occorre parlare della meraviglia della Sicilia, non della mafia. E i magistrati non dunque della mafia in Emilia Romagna o in Lombardia. Per cui i magistrati sono una delle rovine della Sicilia, tu dici? No, io ho detto che le azioni di alcuni magistrati sono propagandistiche e legate a dei teoremi. L'ho detto, fiammetta Borsellino a Nino Di Matteo dicendo che ha fatto depistaggio sulla morte di suo padre. L'accusa di una figlia a un magistrato che continua oggi a occuparsi della trattativa Stato Mafia del 92 incriminando il generale Mori. Onore a Mori, dillo quel cretino. La mafia non c'entra. Senti, un'ultima Dire mafioso uno che non lo è. Va bene, Vittorio, ho capito benissimo. Un'ultima cosa, Vittorio, scusate. Voglio andare avanti a fare gli spiritosi. Ci vogliamo. La mafia va colpita dov'è? Non dov'è. Bene, ci iscriviamo tutti quanti al partito del pelo di Siffredi, che è meraviglioso. Il partito del pelo del rimboschimento. Il rimboschimento delle fighe. Ne parleremo nei prossimi giorni. Esatto, rinascimento e rimboschimento. Tema che vi appassiona. Ciao, Vittorio, devo chiudere per forza. Ciao, ragazzi. A me. Non è. Ragazzi, a me non me ne frega un cazzo. Voi protestate, ma io Sgarbi lo chiamerò sempre, perché comunque la testa è quella che conta. Andiamo a ritirare un premio adesso. Non me ne frega un cazzo. Sì, giusta causa. Ciao, ragazzi. Ciao.